Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, informazioni, musica. Radio Azione. Frequenze, azione. Radio in diretta. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Celia, col passare delle ore, gli animi dei sequestrati diventano sempre di più insofferenti e agitati perché il fumo tossico è filtrato nei tombini della metropoli. Il fetore chimico del fumo tossico combinato a quello delle fogne del carcere sotterraneo è così nauseante che gli stessi Tarspok sono costretti ad indossare le maschere antigas. L'incuso dentro il suo ufficio, l'Erit, un ufficio che è una sorta di rifugio antiatomico, cerca continuamente di tenere calme gli animi dei sequestrati, rassicurandoli che si sta procedendo a ripulire l'aria. Ma le sue parole non ottengono nessun effetto, dato che i primi a sembrare molto preoccupati sono gli stessi Tarskok. Valéry, preoccupato, capisce subito che c'è qualcosa di strano in tutta questa faccenda e, avvicinandosi alle sbarre della sua cella, si rivolge ad uno degli uomini topo che, con le spalle appoggiate alla parete del corridoio di fronte alla cella del refrattarios, imbraccia il fucile quasi tremante, rivolgendo sguardi a scatti ai due lati del tunnel. «Ehi, guardia!» Al primo richiamo il Tarskok non risponde. «Ehi, guardia, ce l'ho con te!» «Non mi chiamo guardia!» risponde Tarskok. «Secondino, carceriere, insomma tu!» ribatte Valéry. Il Tarskok, con un fare minaccioso, punta il fucile contro il refrattarios. «Se continui così ti risolvo subito il problema dell'area, togliendoti per sempre il respiro. E comunque devi chiamarmi agente!» Valéry non vuole ribattere alle parole del Tarskok, anche se dentro di sé sta godendo da matti a vedere la reazione dell'uomo topo. L'uomo topo sa benissimo che il suo lavoro è lo stesso di un cane da guardia, ma gli dà fastidio, come del resto a tutti gli altri suoi colleghi, che qualcuno glielo ricordi apostrofandolo con termini simili a quelli pronunciati dal refrattarius. «Ok, scusa», dice Valéry, con un tono tra il serio e il provocatorio. «Capisco benissimo che ci sono dei problemi e state risolvendo, ma nel frattempo, se posso, vorrei avanzare una richiesta al direttore.» «Cosa vuoi tu, terrorista, dal direttore?» Valéry fa finta di non sentire il termine appena pronunciato da Tarskok e avanza la sua richiesta. «Voi stessi indossate maschere antigas e questo significa che l'aria è tossica. Quindi, se ci volete tutti morti e avvelenati, continuate così a riempirci la testa di chiacchiere, inutili e soprattutto menzogne. Ma se vi facciamo comodo, in quanto sequestrati, di' al tuo comandante di chiudere a meno i blindati delle celle per il momento che risolvete questo problema.» La proposta di Valéry trova d'accordo tutti gli altri sequestrati di quel braccio del tunnel, i quali iniziano ad urlare e battere le pentole sulle sbarre chiedendo che fosse accettata la richiesta del refrattarius. Nel giro di pochi secondi il rumore è assordante ed echeggia lungo tutto il carcere, arrivando all'orecchio degli altri sequestrati nei diversi bracci del carcere, che a loro volta si uniscono al caos. Allora è Tarskok, non prima di aver rivolto una occhiataccia a Valéry, come a dirgli: «Guarda, se non sei sempre tu a creare casini», attraverso la vicetrasmittente chiama l'ufficio di Lerit, avanzando la richiesta dei sequestrati. La sala operativa in cui vi sono i computer, dai quali attraverso un software si comanda l'apertura e la chiusura di tutte le vie d'accesso al carcere fognario e le stesse doppie chiusure, sbarre e blindo delle singole celle, si trova nell'ufficio di Lerit, che è l'unico ad averne accesso e a conoscerne i codici di sblocco. Senza nemmeno accennare una parola, Lerit, e capendo che la situazione si sta surriscaldando troppo, chiude immediatamente tutti i blindi delle celle, lasciando aperti solo quelli delle grate e dei tombini. Alni, Mark ed Aki, giunti ormai in città, con una nuova piccola auto utilitaria rubata, fanno un giro per le strade più trafficate per evitare di essere fermati da posti di blocco in zone più isolate. I tre refrattarius si dirigono verso la zona collinare, da dove è più facile dare uno sguardo panoramico sulla metropoli, ma anche dove ci sono alcuni supermercati a cui si possono facilmente forzare le porte dei depositi per recuperare un po' di viveri. Da una specie di balconata che affaccia su una 013, i tre notano subito che la città non sottostante è quasi deserta, se non fosse per le autoambulanze che escono vuote dai cancelli degli ospedali e ci rientrano piene di intossicati. L'aria è pesantissima e irrespirabile, quindi Alni, Mark e Aki si rimettono in auto chiudendo i finestrini e accendendo l'aria condizionata. Bisogna fare in fretta e scappare al più presto dalla metropoli, quindi si dirigono immediatamente verso uno dei supermercati. La maggior parte degli elicotteri delle forze armate intanto stanno sorvolando lo spazio aereo della città per avere una visione generale di quanto stia accadendo. Non possono però comunicare tra di loro, né tantomeno con le torri M e G, a causa dei ripetitori andati a fuoco. Qualche elicottero sta sorvolando anche l'area nord dall'alto, che è ancora impossibile perlustrarla per via terra. Sembra quasi una scena surrealista di un film di fantascienza, l'area nord di Nazaro 13, illuminata dall'alto dei fari degli elicotteri puntati soprattutto sulle zone abitative. Nel frattempo i tre refrattari sono già arrivati al primo supermercato. Arni è fuori in auto a fare da paro, mentre Mark e Arni hanno già forzato la porta del deposito e, aiutandosi con le torce a luce verde che vengono usate di solito per camminare nei boschi al buio anche dall'esercito per evitare di farsi notare molto facilmente, i due si apprestano a riempire i sacchi di juta che hanno portato con loro con il necessario per la sopravvivenza sul Vesuvio. Cercano di recuperare il più possibile perché sanno che non sarà facile ritornare presto in città per recuperare altri viveri, e la nube tossica ormai è in procinto di arrivare anche dalle parti del vulcano. lesions, burning the skin, eyes and lung, raising enormous blisters inside and outside the body, causing widespread deformities and genetic damage. You're looking at the weapon system of the future. E questi erano Biotech con il brano Chemical, dopo l'inizio consueto di lunedì con la 013, a parte di racconto che scrivo io ogni lunedì mattina con una sveglia, perché poi nel resto dei giorni non mi vengono idee. Oramai è diventato un rito, un culto, quello del lunedì mattina mettere la sveglia e scrivere una 013. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: a radiazione@autistici.org per chi vuole mandare mail, comunicati, giornali da pubblicare sul sito di radiazione, mettere nella pagina download da dove si possono scaricare anche altri libri, opuscoli, cd e quant'altro. Per la radio c'è il lettore sulla sidebar che forse oggi non funziona tanto bene, quindi consiglio di usare il banner per accedere alla pagina, alla radio di radiazione, anche se oggi mi sono pure dimenticato di pubblicare la diretta d'azione. Avevo 3.000 cose, cioè, traduzioni lunghissime che nemmeno sono riuscito a portare a termine. Comunque, però sotto il lettore ci sono le indicazioni come ascoltare la radio nel caso il lettore flash non funziona. Quindi cliccate dove c'è scritto sarebbe stazione e browser, ribadiscono il caricamento, eccetera, eccetera, eccetera. Ci cliccate sopra e vi si apre la pagina dello streaming radio. Quindi la radio l'abbiamo detto, per il sito di radiazione penso che c'è poco da dire, dove potete leggere la controinformazione aggiornata sia in italiano che in croato da un po' di tempo a questa parte. C'è il banner per accedere alla sezione serbo-croata portata avanti dalla compagna con cui si è fatto anche la diretta d'azione venerdì scorso. Allora, oggi lunedì, quindi come tutti i lunedì, oltre alla controinformazione c'è soprattutto la lettura di Tortuga. Oggi all'ultima lettura, si finisce oggi il libro di Valerio Evangelisti, e noi aspettiamo sempre consigli, sui libri da leggere su radiazione. Chi vuole può scrivere una mail e mandarci un consiglio entro mercoledì, altrimenti noi un libro già ce l'abbiamo, lo saprete lunedì. Se arriva un suggerimento, se noi lo prenderemo in considerazione. Quindi ora ci ascoltiamo un brano, lei è AGF con il brano Die Ewigkeit, pronuncia in tedesco di Marcello, e poi dopo si inizia subito con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Die Ewigkeit. schweigen. Strafe ist gewiss. Sie ist aufgefunden. Tornata dei Pirati della Tortuga, dei Pirati di Valerio Evangelisti, di cui l'unica anticipazione che possiamo dare rispetto a quello che abbiamo pensato noi, non leggeremo un libro di Valerio Evangelisti la prossima volta, perché ci piacciono le sue narrazioni, ci piacciono alcune sue narrazioni, ma non siamo lo sponsor ufficiale di Valerio Evangelisti, per cui se non troviamo un altro libro che non ci piace, non lo leggeremo più. Ma dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati che la Fratellanza della Costa, i Fratelli della Filibusta, avevano assaltato una delle capitali del Nuovo Mondo, Campeche, avevano razziato questa città. C'era Ruggero dos Campos, il personaggio che stiamo seguendo, diciamo, la linea narrativa del nostro racconto, del racconto di Valerio Evangelisti, che si stanno dividendo e si erano dati appuntamento dopo il saccheggio e dopo che sono ricorsi da una flotta di inglesi e spagnoli, e soprattutto dopo che la Tortuga è stata colonizzata nuovamente dal reame francese di Luigi XIV. C'è un nuovo governatore che non vuole più sapere dei pirati, ma soprattutto a bordo del Neptune, a bordo delle Ardì, il galeone dove Rogerio dos Campos presta servizio filibustiero come nostromo, c'è stato un qualcuno che lo ha accusato di essere stato un traditore al servizio di Colbert, del potente ministro del mercantilismo francese di quell'epoca, e ha detto lui è stato uno degli agenti del regno sotto i gesuiti, lo ha accusato di qualcosa e adesso Rogerio si trova alla resa dei conti, o meglio a cena con il demonio. Rogerio entrò nella piccola sala da pranzo dove il cavaliere De Grammont lo attendeva con sentimenti, a dir la verità, un po' confusi. C'era in lui apprensione, ma anche la ferma volontà di non lasciarsi sfuggire colei, che ormai era sua per voto popolare. Dunque, era emozionato, però non troppo, fece l'inchino di rigore e si avvicinò al tavolo. «Eccomi, mi capitano!» De Grammont era molto pallido e teneva la gamba destra su uno sgabello. Si tolse il tricorno e lo gettò di lato. Indossava una parrucca incipriata, ricambiò il saluto. «Sedetevi, nostromo. La nostra cena non sarà un festino, temo. Le provvigioni trovate a Campeche non erano mica molte, e le migliori le avete davanti». Rogerio vide sul tavolo, illuminato da candele racchiuse nelle loro gabbie, scodelle d'argento con grosse fette di prosciutto iberico, una zuppa fredda, maiale arrosto condito con aromi e fettine di nopal, formaggio, oltre a un cilindretto di tortillas tenute in caldo da un tovagliolo. Tutto in modesta quantità, a parte un vassoio di frutta fin troppo abbondante per due persone. Chi serviva e versava il vino da alcune polverose bottiglie spagnole era il mozzo che aveva accompagnato il portoghese fin lì. un bambino grassoccio dall'aria timida vagamente sorridente. Rogerio si augurò che non finisse mai tra le mani di Henri Duval. Ignorava chi fosse il cuoco sul Verdi, forse un cinese che aveva visto scivolare sul ponte come un'ombra. Gli addetti alla cucina, infatti, molto spesso erano cinesi. Non che questo gli interessasse particolarmente, perché altri pensieri occupavano la sua mente. De Grammont alzò il bicchiere come in un brindisi. «A maggiori fortune!» esclamò. Rogerio sollevò il vino, ma l'altro aveva già ritirato la coppa. «A maggiori fortune!» ripeté a bassa voce. «E ai fratelli della costa!» De Grammont, che era già intento a masticare un boccone di prosciutto, lo inghiottì, bevve un sorso e disse: «Gesuita, forse mi avete mal giudicato.» «Io? Ma no, di sicuro, capitano. Per esempio mi considerate un crudele, ma è la guerra che lo è. Io mi adeguo. In Europa ho commesso crimini ben peggiori di quelli a cui avete assistito. Al servizio della vera fede, quale che essa sia, ho decapitato non so quanti ugonotti in nome del Papa o del Re. Se fossi stato ugonotto avrei fatto lo stesso con i cattolici.» «Non credo di capirvi», rispose Rogerio. E guardò bene l'uomo che aveva di fronte. La gotta di cui soffriva, facendolo vivere nel dolore, gli aveva scavato il viso. Altri dolori, evidentemente non fisici, si erano aggiunti nel tempo, lasciando il segno. La corta barba e i baffetti si erano ingrigiti, guance e fronte erano solcati da rughe profonde. Gli occhi, di colore tra il nero e il castano, erano pensosi e infossati. La bocca, dalle labbra strette, aveva un taglio però duro. De Grammont, dal gestire elegante, emanava a un tempo tristezza e autorità. Si capiva l'ascendente che aveva sugli equipaggi che comandava e su tutti gli altri capitani. Si sarebbe detto che uccidesse per una maledizione del destino più che per volontà propria, e comunque lo faceva con aristocratico distacco. Gli stessi abiti semplici che indossava, lontani da quelli chiassosi e colorati dei suoi pari gradi, suggerivano un'eleganza naturale e una nobiltà di fondo. Avesse potuto vivere una vita ordinaria, sarebbe stato un grande condottiero. Sospinto dal fato nella schiuma della società, era comunque l'unico capace di regnare all'inferno. «Io non credo che voi mi capiate veramente», disse De Grammont dopo una lunga pausa occupata a sorseggiare vino. «Ma fa lo stesso. Nemmeno voi siete uno stinco di santo, mi risulta. So benissimo chi fosse Fouquet e perché sia stato condannato a morte malgrado colpe molto dubbie. Voi, a quanto pare, avete accelerato la sua fine.» «Signor», esordì Rogerio imbarazzato. «Ah, lasciate perdere», lo interruppe De Grammont, fece un gesto infastidito. «Non ho la minima intenzione di rinfacciarvi il vostro passato. Che cosa dovrei dire del mio? Ravenot de Lossana asseriva che tutti gli uomini sono belve in fondo al cuore, assassini potenziali.» «Beh, io non lo credo», fece Rogerio. «E io invece non lo so.» De Grammont, che aveva terminato la magra razione di prosciutto e sorbito la zuppa, infilzò con una forchetta una fettina di maiale. «Sono nato durante una guerra, ne ho vissuto altre 10 per i più svariati motivi, sto combattendo ancora, però questa volta il bottino è solo mio, niente ideali fasulli, e questa è già una consolazione.» Rogerio, perplesso, spezzò una pagnotta un po' rinsecchita e ne estrasse la mollica che bagnò nel sugo. «Beh, magari un ideale di libertà», azzardò. Incapace di ridere, De Grammont abbozzò un sogghigno. «Ah, libertà! Quello è l'ultimo dei miei pensieri. Alla tortuga, ammesso che possiamo rimetterci piede, la guerra non ha pretesti. Si ruba, si uccide, si prende, si muore. Lo stesso fanno gli spagnoli in ginocchio a pregare mattina e sera il buon Dio, gli unici sinceri. Per me sono gli inglesi di Port Royal, che di Dio se ne infischiano. Comparata alla Giamaica, Caiona pare un convento di clausura.» E bevi un altro sorso. «Il problema non è la guerra, sono le regole di chi la fa. La tortuga è questo, è la guerra con regole. Furto, omicidio e rapina, però disciplinati.» «Ah, io stento a seguirvi, capitano», ammise Rogerio. Beh, non è così difficile. Voi stesso vi siete appellato alle clausole dell'ingaggio per cercare di sottrarmi una schiava a cui tengo. A Rogerio passò di colpo l'appetito. Si era un momento decisivo che aveva atteso e temuto fin dall'inizio della cena. Le tempie gli palpitarono, il cuore gli batté contro la cassa toracica. Si appoggiò allo schienale della sedia e disse lentamente: «Non ho cercato di sottrarvi nulla, capitano. Ho solo invocato un patto che voi stesso riconoscete e rivendicato un diritto maturato in molti mesi di sofferenza». De Grammont quasi non gli prestò attenzione. «Guerra con regole», sospirò tra sé, chiuse gli occhi, li riaprì e disse: «Signor De Campos, io non sono tipo da fare violenza ad una donna, sia pure di pelle scura, e nemmeno pretendo che si innamori di me, sarebbe assurdo. Nemmeno può amarmi se sano di mente. Ho sottratto quella schiava a Pepe Canseco perché l'avrebbe trattata con brutalità. Ammiro la bellezza di lei e nient'altro. L'ho abbigliata come un ninnolo, questo sì, le ho riservato ogni onore, e rimirarla mi è sufficiente». «E potrete vederla quando lo desidererete», rispose Rogerio in tono beffardo inintenzionale. «Sta di fatto che è mia e mi chiedo anzi, signori, quando vi deciderete a consegnarmela». «Ma voi l'amate sul serio?» «Eh sì, ma non parla mai, non conoscete il suo nome, siete sicuro di essere corrisposto?» Rogerio esitò un attimo e poi rispose con impeto: «Sì». «Non le farete del male?» La domanda lasciò perplesso il portoghese. Stava parlando con il demonio in persona, il capo supremo di un'accolita di farabutti. E se la donna amata aveva qualcosa da temere, non poteva che venire dal cavaliere privo di sorriso, segnato dal vizio, dal sangue, dai bagordi, e reagì con indignazione contenuta. «Mi capitano, io la schiava la voglio affrancare e sposarla subito dopo. Con me sarà felice, con voi non so se lo sarebbe, anzi ne dubito». De Grammont si stirò con il polpastrelli di indice e pollice i baffi sottili. «Ma probabilmente avete ragione, con me non sarebbe felice nessuno», e bevi ancora vino. «D'accordo, alla Isla Mujeres ve la consegnerò». «E perché non subito?» «Ah, lo sapete anche voi, in mare non è consentito avere rapporti con le donne, si trattasse anche della propria moglie». «Non temete, non mi rimangerò la mia promessa». Rogerio non ne dubitava, l'uomo che aveva di fronte, se apparteneva all'inferno, somigliava più a Lucifero che a Satana, capace di operare il male, però terribilmente seducente nella sua malinconia. Suggeriva sincerità e lealtà innate, sopravvissute alla fatalità che lo aveva condotto alla dannazione. Era chiamato in origine ad altri destini, ora sterminava per mestiere, ma pur nel crimine manteneva una certa etica. Gli uomini ai suoi ordini, a partire da Lorenzio, non gli somigliavano neanche un poco. Si passò alla frutta, uva, banane, polpa di cocco fresco, fettine di avocado. Solo allora De Grammont lanciò una proposta. «Gesuita, il contratto di ingaggio prevede, per chi abbia perso il braccio destro, 200 scudi o 2 schiavi. Che ne direste se vi versasse gli scudi di tasca mia e mi tenessi la donna? Potrei passarvi uno schiavo in sovrapprezzo, una negretta capace di soddisfare tutte le vostre voglie e qualcun'altra ancora». Rogerio scosse il capo in gesto di diniego radicale, senza repliche. «Non è possibile, capitano. Io amo la prigioniera, lei è solo lei. Non voglio scambiare né con denaro né con altre femmine». Si aspettò allora che De Grammont mettesse mano alla spada, e invece il cavaliere increspò le labbra in una specie di sorriso. «Notevole, è vero. Il potere delle donne. Riescono a dominarci persino quando sono alla catena». E poi tornò serio. «Speravo in questa vostra risposta. Dimostra che i vostri sentimenti sono sinceri. Giunti a destinazione farò ciò che ho detto. Penso che subito dopo abbandonerete la filibusta, o mi sbaglio?» «No, non vi ho mai realmente appartenuto». Rogerio staccò un chicco d'uva e lo mise in bocca, lo masticò. «Io ho trovato qualche amico, ma io fondamentalmente sono diverso». «È più complesso». Nelle iridi di De Grammont passò un lampo di divertimento. «Forse io direi più idealista. È per idealismo che avete ucciso Fouquet su un mandato di Luigi XIV. Non ho mai trattato personalmente con Re, ma solo col ministro Colbert. Progerio era ormai deciso a seguire la via della sincerità. Le mie motivazioni di fondo erano però ideali, se volete. Una parte della compagnia di Gesù, incluso il generale, stava per sostenere un sovrintendente in disgrazia, ladro, corrotto e corruttore. Così i gesuiti avrebbero perso l'appoggio del sovrano e sarebbe stato l'inizio della fine. Accettare le proposte di Colbert per evitare un dramma più grande. De Grammont seguitava a bere vino. E Fouquet era colpevole o innocente? Colpevole di corruzione, innocente per l'accusa di cospirazione. Rappresentava un pericolo per il potere, per l'autorità. Non c'era altra via che eliminarlo. Rogerio si accorse un po' troppo tardi di essere stato eccessivamente loquace. Il demone che aveva davanti gli aveva strappato le parole di bocca. In pratica gli aveva estorto una confessione a colpi di buone maniere. De Grammont tuttavia non sembrava eccessivamente compiaciuto. Assassinare innocenti per il potere che in ultima analisi è ricchezza, si limitò a mormorare. In fondo noi fratelli della costa non facciamo nulla di diverso, manchiamo di ideali, questo sì, e li sostituiamo con la nozione di onore. Certo, è un concetto molto vago. Rogerio non seppe come replicare, terminò di mangiare velocemente e rifiutò il bicchierino di Armagnac che gli veniva offerto. Sulla soglia della cabina disse: confido nelle vostre promesse, capitano. Per la prima volta De Grammont lo guardò con franca antipatia. Ormai sapete di che pasta sono fatto, non ho bisogno di simili raccomandazioni, nostro uomo. Leggermente umiliato, Rogerio lasciò il quadrato di poppa e uscì sulla tolda sotto un cielo fitto di stelle. Era notte, ma faceva ancora caldo. Un vento moderato spingeva avanti tre velieri disposti in fila, le vele gonfie a metà facevano scricchiolare i pennoni. Right now, you're the one. E questi erano Informatic con il brano Oblivion, dopo la prima lettura per oggi di Tortuga di Valerio Evangelisti. Ora si passa alla controinformazione, si va in Cile, questo è il periodo di Cile, quindi leggeremo molte cose su Cile proprio perché c'è la giornata di agitazione internazionale solidale con i compagni detenuti per il caso Security, chiamata che come radiazione è stata sottoscritta, e quindi tenderemo ad aggiornare quando è possibile. Ultimamente ci sono dei testi in via di traduzione, sono un po' difficili perché ci sono dei modi di dire, ci sono troppe K, e per uno che come me ha imparato lo spagnolo leggendo i siti di controinformazione resta un po' difficile, quindi se c'è un po' di ritardo sulle traduzioni è dovuto a questo fatto. Allora, dicevo, si va in Cile dove c'è stato un corteo davanti al tribunale e le carceri in solidarietà con i compagni detenuti. Leggiamo il testo: propaganda e agitazione anticarceraria fuori a carcere per i detenuti del caso Security. Inquadrato nella chiamata per la giornata di agitazione e solidarietà, abbiamo deciso di apportare un gesto semplice e diretto per non lasciare dubbi alle guardie che custodiscono i nostri fratelli. Pur comprendendo che i protagonisti del linciaggio saranno quelli della mafia giudiziaria, sembrava importante passare davanti alla prigione, dove tra l'altro si trovano anche i tribunali di ingiustizia, il carcere di alta sicurezza e la sua sezione di massima sicurezza, l'ex penitenziaria e il carcere impresa Santiago 1, distribuendo circa 10.000 volantini che dimostrano che noi non dimentichiamo coloro che fanno della tortura e del sequestro un lavoro. Consci che i nostri compagni in carcere sono ostaggi e sequestrati dallo Stato, è importante che le guardie sappiano che non permetteremo alcuna aggressione o molestia ai nostri prigionieri e che la ribellione e la dignità sconfinano oltre ogni sbarra e proibizione. Moltiplichiamo la solidarietà davanti al processo contro Freddy Marcello e Juan, non lasceremo solo il compagno Carlos Guterres Chidileo, tiriamo fuori tutti i prigionieri rivoluzionari dalle prigioni della democrazia. E questo era il testo dei compagni che hanno fatto questo corteo, lanciando e distribuendo vari volantini. Sul testo che trovate anche sulla redazione sotto potete trovare, potete vedere anche le foto, migliaia di volantini dispersi in tutta la città, e il volantino stesso che è stato distribuito in quell'occasione. Vogliamo ricordare che la chiamata non era cilena, era internazionale, noi partita dal Cile in solidarietà a tutti gli altri sequestrati in tutto il mondo. Sì, infatti la giornata era stata proposta dal Cile, ma non è una chiamata cilena, è una chiamata internazionale. E questa era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione per oggi. Ora ci ascoltiamo un brano di Mode Selector con il brano Black Block, nemmeno a farla apposta, e poi dopo si ritorna qui e si continua con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. We'll be right back. Isla Mujeres non distava molto da Campeche. I due brigantini e la goletta che costituivano ciò che rimaneva della flotta dei Fratelli della Costa preferirono infatti aggirarla. L'itinerario voluto da De Grammont prevedeva 2 giorni supplementari di navigazioni e un calare da nord dopo aver sfiorato Cuba. E la prudenza era giustificata perché i galeoni del re di Spagna chiamati dal governatore di Mérida potevano aver già raggiunto Campeche ed essersi sparsi nella caccia dei pirati. Si trattava di veleri a 4 alberi, veloci, possenti, dalla poppa altissima e con tanti cannoni sulle fiancate da farli somigliare ad una dentatura. Il resto erano dorature barocche come piacevano alla Spagna, ma stava di fatto che un modesto brigantino avrebbe potuto ben poco di fronte a tanta potenza di fuoco. Rogerio chiamò Bamba, lo schiavo nero curvo, a lavare il ponte su una schiera di altri marinai. Quando l'equipaggio era inattivo alle manovre si puliva e si ripuliva, e ce n'era motivo. Dio cane, col buio la tolda diventava un assembramento di scarafaggi e di altri insetti. Impossibile eliminarli, solo spazza, la straccia e sapone riuscivano a tenerli un po' lontano. Bamba arrivò con la sua andatura goffa dovuta ad un corpo da bambinone troppo cresciuto e il suo eterno sorriso infantile anch'esso era però tutt'altro che stupido. «Cosa devo fare, padrone?» L'ex schiavo chiamava tutti quanti padrone per abitudine inveterata. «Nulla», rispose Rogerio, «solo dirmi una cosa, come mai c'è tanta cupezza sull'Erdi? Tu stesso non sei allegro come lo eri sul Neptune, dipende dal carattere del capitano, forse?» In effetti dal Neptune che navigava di conserva giungevano portate dal vento le note gaie dell'orchestrina e a tratti i canti dei marinai. Nulla di simile sul brigantino di De Grammont. Gli uomini erano silenziosi, avevano i visi lunghi, non dimostravano svogliatezza, però eseguivano i loro compiti meccanicamente, senza le frasi scherzose abituali. Nemmeno all'ora del rum si rasseneravano, bevevano la razione chiacchierando a voce bassa e poi andavano a dormire. Dopo aver riflettuto, Bamba disse: «Io credo che sia per colpa del corso Vinciguerra, padrone. Continua a sognare i cinghiali sgozzati sulla riva di un fiume e i cinghiali saremmo noi!» Rogerio scrutò il ponte. «E dov'è adesso? Non lo vedo!» «Il suo turno di riposo, padrone, lo trovate nel corridoio dell'equipaggio sulla sua amaca. Potrei suggerirvi una cosa?» «Eppure!» «Molti compagni vorrebbero da voi una preghiera o la lettura almeno di un passo del Vangelo. Sentono che c'è un'aria cattiva su questa nave. Un vostro intervento sarebbe di gran conforto.» Rogerio allargò le braccia in segno di impotenza. «Sai bene che il capitano non lo permetterebbe mai. È già molto che tolleri a bordo un ex religioso con Dio. Lui ha una guerra personale.» «Ebbè, speriamo di non rimanere tutti vittime di quella guerra, padrone.» Bamba si fece rapido segno della croce. «Beh, adesso speriamo e torna al tuo lavoro.» Rogerio allora si portò sotto il quadrato. Macari era come sempre appoggiato alla ringhiera, la lasciava solo per scendere a dare suggerimenti al timoniere o per consultare la bussola nella chiesuola. «Vado un attimo di sotto, signore», disse il portoghese, «torno fra pochi minuti.» Macari si limitò ad annuire. Con Rogerio non parlava più, salvo che per impartirgli gli ordini dopo il contrasto con De Grammont e il suo idolo. Lo disprezzava e non cercava di nasconderlo. Era l'unico sulle Ardì ad avere quel tipo di atteggiamento. Anche Henri Duval non aveva motivi di amicizia e in lui prevaleva il timore dopo la brutta fine di Truane e di Saint-Martin e si teneva a debita distanza. Il corridoio in cui dormiva la ciurma era affollato su 180 uomini, troppi per un brigantino a palo, ma gli avventurieri erano soliti riempire i loro legni. Il turno di riposo di 4 ore ne riguardava circa 60. Alcuni russavano, altri conversavano o giocavano a dadi. I bucanieri, isolati e taciturni come sempre, sedevano in circolo sul pavimento coperto di paglia e lucidavano i loro fucili, gli arawakos per conto loro. Dormivano in gruppo, allineati l'uno accanto all'altro. C'era odore di corpi umani sudati. di pece, di vernice, di escrementi, l'umidità traspirava dalle pareti col suo sentore salmastro e vi creava muffe. Viceguerra, il corso non era addormentato. Rannicchiato in un angolo, teneva gli occhi sbarrati come per evitare un sonno che temeva. Rispetto a pochi giorni prima era molto, ma molto deperito. Occhi rossi, affossati, viso scavato, respiro pesante. Non aveva nessuno accanto a lui. Quando Ruggero gli si avvicinò, sguardi irrequieti seguirono i suoi passi. Mi hanno detto che fate strani sogni. Il corso giunse le dita molto scarne, sembrava sul punto di piangere. È vero, gesuita, cerco di non dormire, ma ogni volta che chiudo gli occhi è sempre lo stesso incubo. Aiutatemi, vi prego. Io so che vedete dei cinghiali uccisi sulla riva di un torrente in Corsica, che quando li rigirate hanno le fattezze di nude e le ardi. Sembrano incubi dettati da un timore più che da un presagio. Forse dovreste tenere per voi queste visioni, però. State rovinando l'umore dell'intero equipaggio. Vinciguerra sembrò non comprendere ciò che il nostromo gli diceva, perché la risposta suonò incoerente. Tremava come se avesse la febbre. Mio padre era un mazzere, mio nonno anche. Parlava in francese, corrotto ma comprensibile. Loro sognavano ciò che sogno io, ma un cinghiale ucciso una volta. Io solo ne vedo tanti. Suggestione, disse Rogerio, e ci credeva davvero. Tutti noi abbiamo degli incubi, in qualche caso ricorrenti. Ma voi non capite. Uno dei cinghiali che vedo sono io stesso. Con il mio cervello sparso attorno, beneditemi oppure datemi una pistola. Vinciguerra pareva in preda ad un febbrone acuto, balbettava e sbavava, gli occhi gli si chiudevano, stava quasi per addormentarsi. Sulle ardi le cerimonie religiose sono proibite, rispose Rogerio. Chiese in giro un'arma, ne ottenne una da tasca con acciarino e pietra focaia. Il cane, già alzato, la porse a Vinciguerra. Questi, come il portoghese, esasperato, la puntò alla tempia e fece fuoco. La sommità del cranio volò via, il sangue si mischiò sulle pareti, agli schizzi di liquido cerebrale. Il melagramo è morto e con lui sono sparite le sue profezie, scandì Rogerio con voce risoluta, rivolto all'equipaggio presente negli alloggiamenti. Ora, chi di voi crede, si inginocchi con me e reciti il Pater Noster. Il resto del nostro viaggio sarà sereno. Guai però a chi rivelerà che noi adesso abbiamo pregato. Chi dormiva fu risvegliato. I giocatori abbandonarono i dadi. Terminata la breve orazione, Rogerio risalì sul ponte e si portò davanti a Macaria, ancora aggrappato alla ringhiera del quadrato. Primo ufficiale, gli disse, il marinaio Vinciguerra si è suicidato, spargeva superstizioni tra la ciurma, la influenzava e la fiaccava. La sua morte è in un certo senso provvidenziale. Torneremo a cantare e a ballare come su Neptune. Voi lo credete veramente, Nostromo? Pensate che soffocheremo questi presentimenti di morte imminente? Oh, sì! Allora beato voi, occupatevi delle esequie. E ripiombò nel proprio mutismo. La salma di Vinciguerra, avvolta in un sudario, fu gettata in mare senza assembramenti, preghiere o cerimonie. Del resto, si trattava di un suicida e dunque di un peccatore morto fuori dalla grazia di Dio. Quale unico segno di rispetto, il corpo fu fatto scivolare su un'asse. Al rumore del tuffo, gli uomini e l'equipaggio che avevano seguito lo spettacolo da lontano sembrarono sollevati. Intanto il cavaliere De Gramont, uscito dalla sua cabina, si era portato zoppicando di fianco a Magari, contemplò con lui il cadavere che si inabissava, poi girò lo sguardo sulla ciurma. Forse voleva assicurarsi che nessuno osasse accennare un furtivo segno della croce. Il cavaliere era più pallido del consueto e aveva gli occhi arrossati come se gli bruciassero. Il vento, sostenuto, gli sollevava a tratti il mantello grigio e rischiarava di strappargli il tricorno. Allora De Gramont guardò il mare, frangiato di schiuma, e molto lentamente ridiscese. era appena scomparso quando, dalla coffa del trinchetto, giunse il grido «Terra in vista!» E qualche istante più tardi tutti potevano scorgere il profilo piatto della Isla Mujeres, la lunga spiaggia bianca che la delimitava a settentrione. Rogerio trattenne il fiato. Era giunto il momento più difficile della sua avventura. We'll be right back. allora questa era Annie Clark con il brano Our Darkness, dopo l'ennesima lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Ora si ripassa, come di consueto, alla controinformazione, si va in Argentina e per lo specifico a Buenos Aires, dove sono state incendiate un po' di auto, come capita spesso da quelle parti. Leggiamo il testo rivendicativo dei compagni di Buenos Aires che hanno fatto questa azione. Siamo consapevoli della realtà in cui viviamo. La morte accelerata e la miseria della vita moderna infettano anche noi come individui perché respiriamo l'aria di merda di questa città. Sempre cercando di essere diversi e diretti con il nostro agire, con il rispetto alle migliaia di manifestazioni di piazza che si verificano in questa regione. Come anarchici facciamo quello che facciamo perché consideriamo che è il meglio che possiamo fare in questi momenti che si vivono da queste parti. Domenica scorsa, 16 marzo 2014, all'alba abbiamo incendiato un'auto della pattuglia della PFA del quartiere di Recoleta a Buenos Aires. La domenica precedente, il 9 marzo 2014, all'alba abbiamo incendiato un'auto Mercedes-Benz nel quartiere di Palermo di Buenos Aires. Abbiamo dato anche fuoco a molte auto a Belgrano, Nunez, Villa Archisa, Villa Devoto nei mesi di febbraio e marzo 2014 per la distruzione della società carceraria e tutte le autorità Amigos della Tierra, Federazione Anarchista Informale. La sigla, la firma dell'azione la conosciamo perché più di una volta su Radiazione sono state pubblicate azioni fatte da questo gruppo di compagni a Buenos Aires che hanno il loro modo di manifestare molto particolare. In ogni zona del mondo, cioè in Cile si usa fare le barricate in strada improvviso incendiando copertone, la parigliata. In Argentina si usa molto incendiare le auto. Questa è una cosa che ci fa pensare, perché nonostante il fatto che hanno incendiato un'auto della polizia, però hanno incendiato anche una Mercedes-Benz che era di una qualsiasi persona, sapendo che comunque una Mercedes-Benz da quelle parti se la possono permettere in pochi, anche dalle nostre, di meno pochi, ma sempre in pochi. E quindi vabbè, e tutto rientra anche nei discorsi che hanno sempre fatto questi compagni, anche dicendo che comunque alla fine, anche se noi portiamo avanti la nostra vita, la nostra lotta, comunque respiriamo la stessa aria di merda che respirano tutti i cittadini in una città. Soprattutto da quelle parti c'è la parigliata, c'è le automobili, e dalle parti nostre chissà che succede. Ci sono i forconi. C'è Renzi. Allora, il prossimo brano ci ascoltiamo è Sarah Knox con il brano Flight 257 e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Personal electronic device, please contact your cabin crew. motivated. L'imbarcazione fendette le onde discretamente alte, diretta all'alto brigantino. Le Gramon, uscito dal suo alloggio, si fece incontro al collega e lo aiutò a salire a bordo. «Mi farete l'onore di pranzare con me», gli disse. Ed erano quasi le 10 del mattino, l'ora del pasto principale. «E quando avremo terminato di mangiare saremo già a destinazione». Lorenzio salutò con un volteggio aggraziato del cappello ricco di piume e chinò la lunga capigliatura bionda. «Accetto volentieri il pranzo, ammiraglio, però non verrò con voi alla isla Mujeres. Io sono diretto altrove». De Gramone narcò un sopracciglio, la tetraggine naturale dovuta al dolore della gamba ne fu accentuata. «E potrei conoscere il motivo di questa vostra decisione. Oh, ma ve lo dirò in privato! E allora venite con me». Non appena i due capitani furono scesi dal quadro ufficiale, Rogerio fu attorniato da Exkemening e da Le Bon. Il primo gli strinse la mano, il secondo lo abbracciò a rischio di scottarlo con il tabacco ardente della pipa. «Ma perché Lorenzillo non vuole sbarcare alla Isla Mujeres?» chiede Rogerio appena riuscì a sottrarsi a quelle effusioni. «È troppo piena di insidie», rispose Exkemening. «Tutta canali, lagune e fondali bassi. Teme una sorpresa da parte della flotta spagnola che non ci permetterebbe di fuggire in tempo. Le Bon Annui aggiunse. Inoltre, molti nell'equipaggio fanno brutti sonni, sono nervosi e svogliati. Può dipendere sì dal fatto che la presa di Campeche si è rivelata un fallimento. E Lorenzillo però è molto sensibile a quegli stati d'animo. Pensa che sia meglio lasciare queste acque su cui pesa la mala sorte e cercare attorno a Cuba qualche galeone da saccheggiare per accontentare gli uomini e carenare laggiù. Anche sulle Ardi un marinaio corso, Vinciguerra, aveva cupi presagi, osservò Rogerio, ma il cavaliere de Grammont non è il tipo da lasciarsi influenzare. E Lorenzillo invece lo è. Ha scelto di convincere il tuo capitano a non sbarcare alla Isla Mujeres e a fare vela con lui. Ma la sua decisione è già presa, non metterà piede su quell'isola per nulla, nulla al mondo. Rogerio temette che tutto il piano che aveva faticosamente elaborato stesse per saltare. Si rassicurò solo quando, quasi un'ora dopo, Lorenzillo e De Gramono riapparvero sulla tolda impegnati in un serio battibecco. «Superstizioni!» esclamò il cavaliere De Gramono adombrato. «Tutta la vita ho avuto a che fare con le superstizioni e adesso scopro che persino voi, comandante Lorenzillo, ve ne fate condizionare! Ammiraglio, ma sapete quanto rispetto vi porti?» rispose Laurent de Graff. «Ma non so bene se Dio esista per davvero, ma di una cosa sono certo, il diavolo c'è! Mille volte porco e la sua ombra si fa sentire, la Isla Mujeres è impregnata dal suo fetore. Uomini che si suicidano, altri che sognano cose strane, più ci avviciniamo, peggiori sono i presentimenti e io da parte mia me ne terrò lontano. Capitano, in questi mari il diavolo siamo noi. Ma non siamo gli unici, ammiraglio, perché non venite con noi? Ci sollazziamo a Cuba, scegliamo la migliore città spagnola da mettere a ferro a fuoco, ricca e stavolta gonfia di merci e denaro, Cartagena, ancora una volta Veracruz e poi ripariamo se non la tortuga a Port Royal. Ci restiamo qualche mese, dilapidiamo il bottino in puttane e bevande e ci studiamo il prossimo obiettivo da colpire. Il gesto di diniego di De Gramont fu molto energico. Lorenzillo, mi vergogno per voi che mi chiedete questo. Che esempio darei se mi ritirassi da Isla Mujeres per paura di oscuri fantasmi? La mia sciabola è ben affilata e lo stesso Satana avrebbe da temerla. Pericoli non ne sono segnalati, la mia sosta sarà brevissima e la flotta spagnola non è in vista. Le fregate francesi, mi capitano. Beh, non hanno motivo per attaccarci, battiamo la stessa bandiera. Le abbiamo inchiodate senza fare del male a nessuno. L'equivoco col governatore dei Chiussier è stato solo temporaneo e sarà risolto. E voi ne siete convinto, ammiraglio? De Gramont allargò le braccia. I fatti parlano! Davvero volete lasciarmi, Lorenzillo? Ah, mi capitano, io ne sono più dispiaciuto di voi. Adesso però accompagnatemi alla scena. Schemeling disse a Rogerio: siete ancora in tempo a trasportare da una nave all'altra, gesuita. Sapete che dal fratello della costa ciò si può fare. Meglio essere sul vascello di un mezzo pazzo come Lorenzillo che sul velire di un fanatico della guerra a oltranza e pieno di idee suicide. Nel cavaliere la bile nera ha debordato. Stavolta è chiaro, sogna ad occhi aperti, acciaio e fuoco, è capace di portare le ardi e la tragedia e con tutti coloro che ne sono a bordo. Rogerio però scosse il capo. Io non posso farlo e voi ne conoscete il motivo. Oh, per Dio, ancora la schiava! Eh sì, lei. De Gramont me l'ha promessa, ho fiducia nella sua parola. Ma di questo non dubito nemmeno io, però. È inutile, io devo rimanere qui e vivere questa avventura fino in fondo. Quando lei sarà mia, allora lascerò i fratelli della costa e mi ritirerò a vivere su qualche isoletta. Tanto ce ne sono tante. Rogerio ostentò sicurezza, ma era molto incerto sul proprio destino e su quello della donna che amava. I calcoli che aveva fatto erano approssimativi, non comprendevano i dettagli. Confidava sulla presenza di spirito che tante volte lo aveva salvato da situazioni difficili, una risorsa naturale, ma non era detto che funzionasse sempre. Le Bon batté la pipa sull'impavesata, vuotò il tabacco consumato in mare e gli toccò la spalla ancora valida. Non perdermi anche l'altro braccio, gesuita. Sorrise, arruffando un intreccio di rughe inciso sul viso cotto dal sole. Un giorno verrò a trovarti sulla tua isola e spero di scoprirti circondata da bambini color cioccolata. In quel mentre anche Lorenzio e De Grammont stavano prendendo congedo. Non cerco nemmeno più di convincervi, ammiraglio, disse il primo. Vi auguro buona fortuna. Io navigherò un po' a caso e farò passare i mesi conoscendo il Re Sole. Sono sicuro che tempo un anno sarà di nuovo in guerra con la Spagna, con l'Olanda o chissà chi. E allora riavremo la tortuga e le patenti di corsa. Ogni volta che in Europa si combatte, i parrucconi di Parigi riscoprono l'utilità della filibusta. Ah, ne sono persuaso anch'io, rispose De Grammont. E allora, cane d'un diavolo, ci rivedremo a Caione alla Tête du Porc, a sbronzarci, a farci confortare dalle sgualdrine. Consentitemi di farti un regalo. E quale? Ah, io vi mando qualche membro della mia orchestra con violini e tamburi, qui sulle Ardì, permettetemi di dirlo, è un mortorio e l'equipaggio va tenuto in allegria, non trovate? De Grammont si strinse nelle spalle e fece un debole sorriso. Come volete. Adios, capitano. A presto, ammiraglio. I due uomini si inchinarono reciprocamente. De Grammont, mentre Lorenzio scendeva agilmente le criselle, salutò anche Exquemeling. Cavaliere, vi ho lasciato una buona quantità di colchico, disse il chirurgo. Non trascurate di prenderlo. Lenirà i vostri dolori alla gamba. Ormai non vi vado nemmeno più, rispose De Grammont. Comunque, dottore, grazie. Buon voyage. De Grammont zoppicò faticosamente fino a Tribordo, dove, un po' dimenticata, per via degli eventi navigava la goletta gabbiola di Nicolas Brigaut, un bel legno nero, agile, con i velacci quadrati e le altre vele auriche. Aveva 4 cannoni in tutto e una trentina di uomini a bordo. Si sforzava di rallentare l'andatura per non distanziare le Ardi. Brigaut era sul ponte vicino al timoniere. Capitano, gli gridò De Grammont, intendete andarvene anche voi? Brigaut, un uomo basso, tarchiato dai baffoni spioventi, tolse il cappello, si mostrò stupito. Ma non ci penso nemmeno, ammiraglio, perché dovrei? E allora andate a esplorare la Isla Mujeres se ci fossero insidie. Il vostro legno è abbastanza veloce da fuggire e portarmi la notizia. Io vi aspetterò qua in panna. Agli ordini. Esplorate ogni cala e soprattutto quelle in cui approdiamo di solito. Se vi fosse pericolo, sparate un ed un solo colpo di cannone e io accorrerò. Rogerio aveva seguito il dialogo con una certa preoccupazione. Fu distratto da un'apparizione che non si attendeva. La schiava era comparsa sul ponte, vestita alla maniera delle dame europee. Parrucca alta, bianca di ciglia, corpetto stretto che le soffocava il seno, ampia gonna di raso. Incedeva a passi incerti per il continuo rollare della nave e per le scarpette dal tacco troppo alto. Si guardava attorno con meraviglia, quasi contemplasse un mondo a lei totalmente ignoto. L'accompagnava una servetta nigra che teneva un ombrello aperto per ripararla dal sole, molto attenta però a non scompigliarle l'acconciatura. La schiava aveva cipria sulle guance, però l'espediente non serviva a schiarire la carnagione che rimaneva molto scura tra il nero e l'olivastro. Era incantevole. Rogerio allora istintivamente camminò verso di lei e fu intercettato da una macchia di pessimo umore. Stai fermo, gesuita, non siete autorizzato ad avvicinare la prigioniera che il cavaliere De Grammont protegge. È il capitano stesso che me l'ha promessa e scusa, rispose Rogerio con fare provocatorio. Forse non me ne ha informato. Io so tutto. È il capitano stesso che me... So tutto anche delle eventuali nozze che si faranno a terra fino allo sbarco. Però la ragazza non vi appartiene ora. Per favore, andate a fare il vostro dovere di nostro uomo. Giù le vele e l'ancora. E prima di avanzare si aspetto il ritorno di Brigaut volentieri. Rogerio corrugò la fronte. voi prima degli ordini che gli trasmetto. Ve ne ho appena dato uno e quindi che cosa aspettate? Seguite volentieri! Di malavoglia Rogerio si staccò dalla chiesola, accanto a loro e alle volte che era il timone passò de Gramon zoppicava più che mai e tratteneva le lacrime di dolore. Nessuno dei due contendenti osò interpellarlo. Il cavaliere vide la schiava, claudicò fino a lei, salì affannato la scaletta e la prese sotto braccio. Le mormorò parole che la donna accolse con il consueto mutismo. Passeggiarono sul castello di poppa, lui parlava, lei taceva. Rogerio fu assalito da un impeto di gelosia, lo temperò il pensiero che di lì a poco sarebbe venuta la resa dei conti, la schiava sarebbe stata sua ad ogni costo. Perso nelle proprie riflessioni, trascurò che dal Nettuno ormai distante gli si stava salutando. Forse alcuni saluti erano rivolti a lui, ma che importava? Verso tribordo la goletta di Brigò, tutte le vele al vento faceva rotto verso la isla Mujeres. Rogerio si ricordò all'improvviso dei suoi compiti di Nostromo. «A mai non tratto!» urlò. «Via, gli uomini liberi allargano!» L'equipaggio corse qui e là lungo il ponte, l'ancora si tuffò in mare e le vele furono arrotolate sui pendoni. We'll be right back. questi erano Undermatic con il brano Independence. Ora si passa alla controinformazione. Lettura di paragrafo, lettura di controinformazione. Ci alterniamo il lunedì sulla reazione con la lettura del libro e la controinformazione, per chi non lo sapesse. Allora, per quanto riguarda la controinformazione, ora si va in Grecia. Si va in Grecia con gli aggiornamenti sul processo ai compagni, ai quattro compagni detenuti per la doppia rapina in Velvetos e Kozani. Leggiamo le due udienze aggiornate. Udienza 6 il 4 marzo 2014. Esaminati tre testimoni: il direttore della filiale di Agrotiki Bank, oggi filiale di Pireus, un dentista che gli autori della rapina trovarono lungo la strada verso Veria e che portarono con loro, e un pensionato della Compagnia Nazionale Elettrica che è stato testimone oculare della seconda rapina alle poste Elta di Velventos. Due dei tre testimoni, testimoni oculari delle rapine, hanno detto di non poter identificare nessuno degli autori perché avevano il volto coperto e indossavano tute da lavoro. Il direttore della banca ha detto che alcune delle caratteristiche di uno degli autori sarebbero simili a quelle di uno degli arrestati brutalmente picchiati. Ovviamente tali similitudini non sono abbastanza per identificare qualcuno. Il presidente del tribunale e soprattutto l'accusa hanno cercato di utilizzare le testimonianze riguardo la similitudine di alcune caratteristiche al fine di ottenere un'identificazione dei compagni come autori della rapina in banca a Velventos. Il testimone ha categoricamente detto di non poter identificare e di non voler accusare un innocente. Al testimone è stato anche chiesto se ci fu terrore o paura per i cittadini che erano in banca in quel momento. Lui ha descritto il comportamento degli autori come impeccabile, sia verso se stesso che verso gli impiegati e tutti i clienti. Gli autori hanno anche permesso ai presenti di uscire dall'edificio mentre la rapina era ancora in corso. Il dentista preso in ostaggio dagli autori, sebbene pressato per fornire un'identificazione, non l'ha data e ha detto di non poter identificare nessuno. Uno dei compagni accusati ha comunque dichiarato che il testimone ha raccontato solo metà di quanto successo. Alla domanda di un membro della corte se i cittadini si siano sentiti spaventati da questa rapina, dato che era stata fatta dai membri del CCF, i testimoni hanno risposto di non aver avuto paura. Poi c'è stata l'udienza 7 del 13 marzo 2014, la richiesta della difesa di rinviare l'udienza, visto che l'avvocato Spiros Fitrakis era in corte d'appello, dove il compagno Giris Ntalios, il caso di questo compagno è stato rinviato al 21 marzo 2014, doveva presentarsi in aula, è stata accettata. Il processo riprenderà il giorno 1 aprile. E questa era per quanto riguarda la controinformazione che ci arriva dalla Grecia. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Massive Defect con il brano Papier Flugzeug. Papier Flugzeug. Flugzeug. Imparerò pure il tedesco prima o poi. L'aereo di carta, l'aereo di carta. C'è Marcello per ora che me li legge i titoli delle canzoni. Quindi Massive Defect e poi Papier dopo. Papier Flugzeug. E poi dopo Tortuga di Valerio Evangelisti. Hallo liebe Papierfliegerbauer, heute bauen wir zusammen einen neuen Flieger, der gut aussieht und richtig stark fliegt, sowohl drin als auch draußen. Sein. Stein, keine Hosen und kein Wein, kein Dreier-Coupé oder Schönheits-OP, kein Schmuck, kein Abendkleid, und das tut mir nicht leid, denn heute schicke ich dir ein Flugzeug aus Papier. Esserne accaduto. Tra gli avventurieri regnavano il timore e lo sconforto. Il cavaliere di Gramont apparve sulla soglia del quadrato e interpellò Macari. Avete udito colpi di cannone? No, mio capitano, eppure sono stato molto attento. Tracce di una tempesta anche lontana? Macari additò il cielo. Potete vedere anche voi, nessuna nuvola. E allora De Grammont, con la fronte aggrottata, ridiscese nella sua cabina e ne uscì solo un paio d'ore più tardi. Salpiamo, ordinò. Inutile stare qui a marcire mentre Brigua magari ha bisogno di noi. L'obbediente Macari azzardò un'obiezione, ma capitano, non sarebbe più prudente dirigersi altrove e abbandonare un valoroso la sua sorte? Primo ufficiale, dopo tanti anni di servizio, non mi conoscete ancora bene. Si va alla Isla Mujeres. Comandate di levare le ancore e di armare i cannoni, ovviamente. Dov'è l'orchestra che mi ha regalato Lorenzio? Sotto il trinchetto, a poltrire, a bere rum. E allora adesso voglio i tamburi, ritmo di battaglia, che si combatta o no. Spero che non sia necessario. E bestemmiò in maniera non elaborata, come chi ha fretta. Macari allertò Rogerio, questi prese a gridare: allargano sopra le manovelle, salgare ancora i gabbieri sui pennoni a bere spiegate volentieri i cannonieri ai loro pezzi. E non scordate i musicisti, gli ricordò l'ufficiale, i tamburini sul ponte, ritmo d'assalto. La folla degli avventurieri corse ai propri compiti. Nelle viscere dei reardì un rombo cupo fece capire che i mozzi spingevano palle da cannone e barilotti di polvere verso gli artiglieri. Fasci di moschette e di pistole furono spiegati in coperte. I bucanieri presero posizioni lungo l'impavesata con i loro fucili su treppiede. Gli arawakos, una ventina, si disposero sui masconi, le faretre a tracolla e gli archi in pugno. I tamburi rullarono, la bandiera nera con il teschio, le tibie incrociate e la clessidra salì sul pappafico. Non si sapeva ancora se veramente ci sarebbe stata battaglia, e molti lo speravano, amavano la conquista, ma ancor più la guerra. Il Leardì fendette le onde, sicuro e veloce per raggiungere le spiagge abitabili di Isla Mujeres. bisognava imboccare un canale attorniato da una vegetazione fittissima e dalle radici sporgenti e ossute delle mangrovie. Quindi, immergendosi in una laguna enorme dai bordi distanti e vagamente nembiosi, la prua nella sua corsa scompigliava branchi placidi di coccodrilli e metteva in fuga fenicotteri delle toaldenate, non si vedeva traccia. Terza, rollare le gabbie, ordinò Ruggero. Rientrare veloce il controfiocco. Si trattava di ridurre la velocità in uno specchio d'acqua grande ma limitato. Il timoniere gli era sconosciuto, è un colosso i cui occhi dimostravano scarso cervello. Ruggero pensò che Leverta approfittasse del suo turno di riposo. Fu turbato quando lo vide sbucare dal quadro ufficiale lo sguardo basso e quindi lo intercettò. Non gli avrei detto. Leverta aggrottò le braccia. Un capitano è un capitano, un nostromo è un nostromo. Io sono un semplice marinaio e per me le gerarchie contano. E dunque gli hai parlato su ciò, sullo sterminio che abbiamo fatto sul Gloartulis? Solo di ciò vi ho fatto io, però il cavaliere vuole conversare con te e ti invita nella sua cabina. Ruggero ebbe un brivido. Temeva qualcosa di simile, tuttavia non poteva disobbedire ad un ordine preciso. Entrò nel quadrato e ne scese la biscaglina. Trovò De Grammont adagiato su una poltrona, gli occhi chiusi, la gamba che gli doleva stesa sullo sgabello. Aveva avvicinato le imposte dei finestroni, eppure la luce che ne entrava bastava a rischiarare l'ambiente. Il capitano contraeva il volto in una smorfia di dolore. Accanto a lui, sui tappeti, erano due bottiglie di vino, l'una vuota, l'altra semipiena. Stagnava nell'aria un acuto sentore di tabacco. Sono ai vostri comandi, ammiraglio, disse Ruggero per annunciarsi. Sospettava che De Grammont dormisse. Non dormiva, invece, fece un movimento pigro senza sollevare le palpebre. Ai miei comandi, nostromo. La voce di De Grammont era strascicata e sofferente, non conteneva alcun accenno di rancore. Diciamo che siete agli ordini di qualcun altro. Colbert, Re Luigi in persona. Comunque di un personaggio che ha deciso di abbreviare i miei giorni. Ruggero fu costretto a deglutire e replicò senza convinzione. Je ne compris pas la vostra accusa, ammiraglio. Vi sto servendo fedelmente come in precedenza avevo fatto con Lorenzio. Questa volta De Grammont alzì, aprì gli occhi. Erano stanchi, opachi. Allungò la mano verso il vino, la bottiglia piena a metà gli sfuggì, cadde e inondò il tappeto di rosso. Il cavaliere sospirò. Nemmeno più questo riesco a fare. Concedetemi un sorso. Uno sforzo gli permise di mettersi diritto, guardò Ruggero con malinconia. Io non so se la vostra cattura facesse parte di un disegno concepito da tempo, forse non lo saprò mai. Dovevate sabotare le navi francesi che ci spiavano. E Levert mi ha riferito di aver ucciso per ordine vostro il signor de Ravency, e voi non potevate ignorarne le conseguenze. Quali conseguenze? Balbettò Ruggero. La Francia non può perdonare un atto di ostilità palese nei suoi confronti. Cercava di tenerci a bada, adesso ci combatterà. Ma perché io sto perdendo tempo a spiegarvelo? Voi lo sapete benissimo. Veramente non comprendo, ammiraglio. Sul Gloartulis io ho sciolto i cannoni ed era di per sé un'azione di guerra. La morte di De Ravency è stata solo un episodio necessario. De Grammont sogghignò, ma fu una smorfia. Ecco un linguaggio degno di chi per tutta la vita ha esercitato la professione del sicario. Non siate turbato, signor gesuita, quale che sia la trappola in cui mi avete ficcato, io ve la perdono. Io desidero la morte, ovviamente da guerriera, con la sciabola in pugno, e voi me ne offrite l'occasione. In un certo senso, credetemi, io ve ne sono grato. Ruggero rispose con tanta veemenza che quasi credette lui stesso alle proprie parole. Non è così, mio capitano, abbiate fiducia in me, non vi ho steso nessuna trappola, Dio mi è testimone. Un sorriso beffardo salì allora le labbra di De Grammont sotto i baffetti. Ah, io preferirei testimoni carne e ossa che possono parlare. si lasciò scivolare sulla poltrona fino ad avere le scapole su un bracciolo, le gambe sull'altro. Adesso lasciatemi riposare, tornerò sul ponte al momento dell'agguato. Agguato? Eh sì, ora potete andare, non vi torcerò un capello. Rogerio esitò, c'era un altro argomento che gli stava a cuore, ma come esporlo in quelle circostanze? Eppure doveva. Ammiraglio, avevate promesse che io la schiava. De Grammont aprì un solo occhio, vi lampeggiava una severità molto prossima all'indignazione. Cercherò di sottrarre quella creatura al crimine che avete meditato. Cos'altro pretendete da me? Se ne volete davvero bene, sapete che farò di tutto perché non sia in pericolo, ma regalarla a un miserabile del vostro stampo sarebbe troppo, non trovate? Incapace di rispondere, Rogerio arretrò fino all'uscio, cercò a tentoni la maniglia e uscì sulla tolda. Barcollava, il moncherino destro gli causava un male insopportabile. Le ardisi era inoltrata nella più ampia delle lagune interne della Isla Mujeres. La sua prua urtava di continuo coccodrilli simili a tronchi che si scompaginavano, altri coccodrilli accatastati si muovevano lentamente l'uno sull'altro fra le mangrovie. Il caldo umido mozzava il respiro, sugli alberi si scorgevano scimmie e pappagalli. Levert era al timone. Rogerio non gli parlò, gli lanciò solo un'occhiata dura che l'altro non parve percepire. Magari silenzioso scrutava l'acqua quasi ferma, come in attesa di qualcosa. Gli uomini invece erano vivaci ed eseguivano normalmente i loro compiti in attesa che la campana suonasse l'ora del pranzo. Cantavano la bamba, l'orchestra, accantonati i rullii marziali di tamburi, li assecondava. Un mozzo danzava, un vecchio avventuriero aveva recuperato un violino e dava colpi di archetto. Ciò che il primo ufficiale forse temeva si materializzò dopo un gomito, quasi occultato dalla vegetazione e dai rami dei salici che sfioravano la laguna. Una fregata francese, due, tre. Rogerio finì per contarne sette. Battevano tutte la bandiera bianca con i gigli, erano irte di cannoni. In testa procedeva il Gloire Coulisse, rappezzato ma integro. Dal bonpresso pendeva un cadavere impiccato e non fu difficile riconoscere, per gli abiti sgargianti e la lunga capigliatura da contadino bretone, il corpo di Nicola Brigo. I do this every day, I do this daily, every day I do this. We'll be right back. day, I do the thing. Every day, I do the thing. Every day, I do the thing. Every day, I do the thing. Visione di tante navi in mare contro di loro con un'artiglieria di superiorità schiacciante non intimidì affatto i fratelli della costa, al contrario, li eccitò. I 180 uomini dell'equipaggio, cannonieri a parte, corsero sul ponte come invasati. Secondo il loro costume, urlavano a mo' di gorilla, facevano gesti osceni, agitavano sciabole, scuri e moschetti. Molti di essi si erano tinti il viso con colori vari alla maniera degli indigeni. Si inerpicarono sulle sartie, si aggrapparono ai pennoni. I marinai combattenti sognavano la guerra, inneggiavano alla morte, propria o altrui, come invasati ed eccitati dal sangue che presto avrebbero visto, lanciavano salve di oscenità verso il nemico. Indifferenti al fatto che fino a pochi mesi prima fosse stato il loro alleato e protettore. Si trattava ora di uccidere e predare. Non esistevano altri ideali né piaceri più sublimi. In mezzo al caos, solo i bucanieri e gli arawakos mantenevano la loro lucidità. I primi sistemarono i fucili sui masconi e ne dipanarono le micce. I secondi incoccarono le frecce avvelenate. Macari, esasperato dalla confusione, chiamò a sé Rogerio. Questi accorse. Nostromo! Disse il primo ufficiale. La ciurma non capisce che lo scontro va evitato, ne usciremo perdenti. Sì, signore. Magari batté un piede con dispetto. Non state a dirmi di sì, ordinate di virare finché siamo in tempo, abbiamo pochi istanti per salvarsi. Siete scemo o cosa? Agli ordini, signore! Rogerio ebbe appena il tempo di dire alle vette di girare il timone. Stava per comandare di orientare le vele quando il cavaliere de Grammont salì sul ponte corrucciato e aggressivo. Vestiva di nero e il vento gli stendeva sulle spalle il mantello di velluto, mentre quasi gli strappava le piume dal tricorno. Nessuna virata, Levert, disse al timoniere. Dritti sul nemico a vele spiegate. Questo è uno di quei casi in cui un ratto fugge e un felino si batte. Non contano le convenienze, contano l'onore, conta l'ideale. Ma ammiraglio, balbettò Macari angosciato. Tacete! Lo mise zitto de Grammont. Come dice la canzone, io non sono marinaio, bensì capitano. Ciò sono marinero, ciò sono capitano. Se c'è da morire, si morirà. Ciò che conta è uscire di scena a testa alta e, se necessario, 7-1, anzi 8-1. In quel momento, alle 7 fregate sbucate da anse lacustri piene di sorprese, si era accostato un ottavo naviglio, una delle micidiali galere che Luigi XIV usava nelle sue guerre europee, spinte da remi con vele latine. Il loro impiego era molto insolito nel Nuovo Mondo, navi così erano fatte per il piccolo cabotaggio. E fu verso la galera che le ardì puntò. Chiunque a bordo sapeva che era mossa da schiavi pronti a lasciare i remi e spaventati a morte. I cannoni erano sul ponte e dunque facevano oscillare l'imbarcazione ad ogni colpo, efficiente e letale in mari chiusi dove eserciti di prigionieri incatenati a remo erano costretti a massacrarsi a vicenda. La galera serviva a poco tra lagune e paludi contro la navigazione anarchica di velieri molto più mobili. Era l'anello debole della flotta francese appena spuntata, la galera. Macari decise di accelerare. «Alare la mura di maestra!» urlò. «Aggiungere la vela di trinchetto!» Rogerio trasmise la direttiva e gli uomini corsero agli aspi, invasati, sudati, sempre più inferrociti. La grande mura salì e si gonfiò tra il frastuono ossessivo e costante dei tamburi. La prora delle arti scattò in avanti. Sul legno scelto a bersaglio i remi caddero. Tra i francesi dominava il terrore. «È il momento!» gridò De Grammont, gli artiglieri ai pezzi, fuoco, fuoco a volontà. Le fiancate del brigantino si incendiarono e vomitarono dubbi di fumo. Il suono venne dopo, sordo e lacerante, prima che la galera avesse potuto rispondere ad una sola cannonata, le sue fiancate si sbriciolarono. I due alberi dalle vele auliche furono abbattuti, lo scafo si inabissò in pochi istanti con tutto il suo equipaggio di morti viventi alla catena. «Ora vira per la castagna!» si sgolò Macari. «Vira, vira!» C'era da sottrarsi al mulinello che l'affondamento della galera stava per provocare. Il brigantino obbedì docilmente, scomodando nuovi banchi di coccodrilli, navigò sghembo di bollina. Restavano ora le altre 7 fregate da colare a picco. Forse De Grammont aveva sperato che, distrutta la galera e quei alberi seguitavano a bruciare sulla superficie dell'acqua, gli altri capitani si spaventassero, ma non fu così. Furono anzi i primi questa volta ad aprire il fuoco. Il suono fu simile a quello di una tempesta lontana con i suoi tuoni, mentre i fulmini scoccavano dalle fiancate. Le navi nemiche spararono tutte assieme, come ad ogni prima bordata sbagliarono l'alzo, calcolato in via approssimativa, e una pioggia di palle d'acciaio si abbatté attorno alle ardi. La seconda raffica sarebbe stata più precisa. De Grammont anticipò l'ordine che probabilmente Macari stava per impartire. «Veloci verso la seconda fregata, la più grossa, vede al vento fare in fretta, le prossime palle devono passarci sulla testa!» e aggiunse una bestemmia infernale. Il brigantino era ormai uno strumento docile, condotto da indemoniati, assordato dai tamburi, inebriato dai ruggiti provenienti da uomini in cerca dello scontro feroce, stranamente esaltato dal fatto che quella lotta non avesse speranza. Rogerio tradusse le indicazioni in comandi precisi senza attendere la mediazione di Macari. «Spiegare velacce il controfiocco!» Non c'era alternativa, le altre vele erano già gonfie e crepitavano. «Timoniere, rotta nord-nord-ovest!» aggiunse Macari schiumante. Il Leardino riuscì a schivare la seconda pioggia di palle, però correndo evitò il peggio. La velace di trinchetto fu spezzata di netto, il marinaio sulla coffa precipitò in mare, il Bonprezzo venne scalfito, le manovre di Maestra furono perforate in più punti, caddero in acqua molti rotoli di sartiame reciso, parti dello scafo volarono in frammenti. «Fuoco!» urlò De Grammont. «Fuoco a nostra volta se ci aspetta la morte! Lasciamola delle cicatrici, Dio ci odia, ma sappia che anche noi lo odiamo!» Il brigantino ondeggiò sotto il rinculo dei cannoni che tuonavano simultaneamente a babordo come a tribordo. Una nube di fumo occultò la vista, si sparse l'odore acre della polvere da sparo, gli avventurieri erano quasi sordi eppure seguitavano a scolarsi. I tamburini sovraccitati battevano frenetici i loro strumenti. Non appena la caligine si diradò, si vide la fregata ornata dai gigli di Francia colpita a morte, quasi demolita. Si stava inabissando, non aveva più alberi, bruciava da poppa a prua parigliata. Galleggiava tra fasciami e legname, stava cercando di mettersi in acqua una scialuppa delle 4 che possedeva. Figurine esagitate tentavano di imporre un ordine alla confusione, fini che in troppi saltarono sulla barcaccia che sprofondò come il veliero e i coccodrilli. Si snodarono dai cumuli sulla spiaggia e accorsero in cerca di carne. Il sangue si diffondeva a macchie oleose ed emanava il suo tanfo sgradevole. Dalle ardi si levò un urrà. «E due!» esultò De Grammont. «Non ci restano che 6 fregate ancora! La prua sulla prossima rotta ovest!» comandò Macari alle verte. «La nave a portata di fuoco leggero, pronti i bucanieri!» La flotta nemica, dopo 2 perdite gravi, accennava a scompigliarsi. Forse il cavaliere De Grammont aveva sperato che, in seguito alle sconfitte subite, prendesse largo, ma non fu così. Ordini che non si potevano udire radunarono faticosamente le fregate superstite all'imboccatura della laguna. Una era rimasta indietro, vicinissima alle ardi. «Bucanieri fuoco!» gridò Macari. campi semiselvaggi coperti di pelle di sangue animale puntarono i fucili, accesero le micce, furono colpi di alta precisione, sguardarono il ponte, abbatterono gli artiglieri addetti ai cannoni girevoli. «E ora i fratelli Arawakos!» abbaiò Macari. «Una freccia! Una vittima!» Così fu. E chissà perché la fregata, denominata Le Duc de Bourgogne, non usava l'artiglieria, si chiese Ruggero. E subito dopo si diede lo stupido, la risposta era chiara. Nessun cannoniere francese era in effetti puntato sul nemico. Timoroso di colpi troppo duri, preferiva tenersi di prora, quasi invitava all'abordaggio, sicuro di avere rinforzi. Le frecce percossero le loro parabole dirette al cielo in apparenza, per poi abbattersi sui due malcapitati. Dal ponte delle Duc de Bourgogne si cercò di sparare con fucili e moschetti, la mira risultò approssimativa alle palle, forarono i masconi, solo un solo avventuriero cadde in acqua con un tuffo con le braccia aperte, ma nessuno gli fece caso. I fratelli della costa ora attendevano l'abbordaggio in cui erano specialisti e si ammassarono lungo l'impavesata con daghe e sciabole in mano, pronti a saltare sulla tolda nemica. Rimasero delusi e Rogero intuì perché le cinque fregate ancora non coinvolte procedevano sghembe e ogni loro cannone sparava a intervalli ravvicinati. La distanza era eccessiva, le palle finivano in acqua ben lontane alle ardì. Presto però il brigantino sarebbe stato a portata delle artiglierie. «Siamo troppo appesantiti!» gridò De Grammont. «Si gettino a mare le merci superflue, a cominciare dal legname e dagli schiavi, più qualche cannone! Non abbiamo più bisogno di tutti i pezzi!» Magari guardò il suo capo con stupore. «Ammiraglio, tra gli schiavi da buttare c'è anche lei!» «Ovviamente no, imbecille! Mi riferisco alla zavorra! Su via, date l'ordine!» Ruggero trasmise le direttive del primo ufficiale, poi mandò una squadra di gabbiani a ridurre la velatura. Senza preavviso si era levato un vento furioso e nuvole scure si stavano addensando in cielo. Si preparava uno dei fortunali inaspettati, tipici del Mar dei Caraibi in quella stagione. Condotti sul ponte, uniti da catene, i prigionieri negri furono buttati in acqua con una collana di carne. I primi trascinarono gli ultimi e tutti si inabissarono. Seguirono casse, barili e fasci di tronchi. Gli avventurieri eseguivano il compito con efficienza insolita. Anelavano alla battaglia e poco importava loro che andasse perduto il tesoro destinato a ricompensarli. Intanto prendeva consistenza un altro pericolo. Superata la vigliaccheria, il Duc de Bourgogne stava virando per mostrare la fiancata di tribordo. Dai portelli occhieggiavano almeno 25 cannoni. «Fuoco, fuoco per primi!» strepitò De Grammont. «Coliamoli a picco!» Il Leardi fu scosso dalla violenza delle sue artiglierie. Emise un fumo grigio, soffocante. Partirono proiettili singole, palle incatenate, vomiti di mitraglia. Nessuno poteva vedere cosa stesse accadendo quando una ventata dispersa la caligine e le Duc de Bourgogne. Era uno scafo privo di alberatura, sfondato e più punti. Stava inclinandosi, pronto ad immergersi. Gli uomini a mare nuotavano disperatamente per sfuggire ai coccodrilli. «E tre!» sospirò De Grammont mentre si tergeva il sudore con l'avambraccio. Aveva il viso annerito dal fumo. «Ce ne restano solo cinque!» «Barran l'orza, a distesa!» ruggì Macari. Il cielo si stava tingendo di nero. My memories of me, a lot of dreams, a lot of songs, the next round was for free. And I was sitting next to me, his hair was long and grey. He lost one night, one wooden leg, and he had much to say. He smoked a lot of cigarettes, his voice was rough and deep. So many scars upon his face, his skin was thick and weak. He was the Buccaneer, and he said, "My friend, come verso il suo destino, la muraglia insormontabile delle 5 fregate che chiudevano l'uscita della laguna. Tutte presentavano la fiancata di babordo, tutte avevano i cannoni sporgenti dei loro ugelli. Il veliero più maestoso era indubbiamente il Grand de Lys, rappezzato eppure possente, castello di poppa altissimo, prua acuminata, un equipaggio folto. Le bocche di fuoco si alzavano e si abbassavano cercando il giusto angolo di tiro. Le altre fregate facevano lo stesso, studiavano l'alzo con freddezza scientifica, aspettavano che le ardi giungesse a portata. Macari aveva scostato le verte con una spinta e, preso lui stesso il timone, scrutava il cielo. Troppe nuvole nere, l'uragano sta per scatenarsi, il vento soffia più forte ad ogni minuto. «Che cosa volete che me ne importi? Meglio così!» Il cavaliere de Grammont avanzò sul ponte, ritto sulle sue gambe, e si guardò attorno. «Dov'è? Dov'è il negro Bamba? Lo avete gettato a mare con gli altri schiavi?» «No, padrone!» L'interpellato si fece avanti, scendendo in una grisella del trinchetto. «Eccomi qui!» «E allora vai sotto coperto nel quadrato e accompagna fuori la prigioniera che viene rinchiusa!» Marciò verso un gruppo di uomini che su un'impavesata di tribordo urlavano a piè di fiato verso le fregate lontane agitando le sciabole. Tra loro era anche Rogerio. «Voi, mettete a mare una scialuppa di salvataggio, anzi la barcaccia, volentieri!» «A parte la barcaccia abbiamo solo due scialuppe, capitano», obiettò uno della ciurma spaventato dal suo stesso ardire. «Insufficienti per tutto l'equipaggio, è il caso di sprecarle?» Con una mossa rapida De Grammont trasse dalla bandoliera una pistola e armò il cane e puntò la canna verso la fronte del marinaio. «Mi hai capito? No, ti ho dato un ordine. O lo esegui o ti sfondo il cranio». La squadretta, Rogerio incluso, corse alla barcaccia. Il portoghese, distratto da altri pensieri trascurati fino a quel momento per via della situazione drammatica, fu catturato dalla sua ossessione. Staccare il piccolo legno, peraltro lungo il doppio di ogni altra scialuppa, dalle imbragature che lo tenevano sollevato sul ponte non era impresa facile. Si trattava di abbattere a calci i supporti di legno, sciogliere molti nodi, far girare un argano. Difficile in circostanze ordinarie, l'azione diventava improba sotto un vento tanto forte. Ma infine la barcaccia scese in mare, sollevando schizzi tutto intorno, si riempì a metà di acqua. Non era quello il problema. La minaccia seria erano i primi scrosci di pioggia e la flotta francese che si accingeva a sparare. Fumo grigiastro nascose le fregate fra gli scoppi. Leardi fu, dal primo istante, colpito a morte. L'albero di Maestra e quello di Mezzana si abbatterono, la velatura caduta frenò la corsa del brigantino che virò suo malgrado, così scoprì i suoi cannoni di babordo. «Fuoco!» urlò De Grammont spiritato. «Fuoco!» ripeté Macari. «A volontà!» E ancora una volta il Leardi fu avvolto dal fumo che la pioggia non riuscì a disperdere immediatamente. La laguna brillò per i riflessi delle lingue di fiamma, mentre dal cielo i primi fulmini cadevano sulla foresta. I marosi scrollavano sulla prua del brigantino con furia indescrivibile. Gli alberi abbattuti vennero trascinati via dal vento, simili ad aquiloni giganteschi. Ogni struttura strideva come se stesse per cedere. «Palla nella sentina!» gridò un carpentiere. «Servono volontari!» «Altra falla a poppa!» gli fece eco il maestro d'ascia. «Imbarchiamo acqua!» Macari ignorò quei richiami e lanciò il comando più temuto. «Terza, rollare le gabbie di trinchetto! Lesti, volentieri!» Bisognava salire sui pennoni, su un legno sbatacchiato dal vento a ridurre le velature. Era a rischio la vita, né più né meno, su un vascello già condannato. Eppure nessuno a bordo dimostrava di avere paura. I filibustieri, accecati dal fumo e infradiciati dalla pioggia, si inerpicarono in buon ordine. Alcuni caddero, altri seguitarono a montare a riva. Li muoveva il miraggio dello scontro diretto, dell'abbordaggio, del massacro, la morte propria o altrui. Ruggerio badava a che la barcaccia non si staccasse da Verdi o non si frantumasse contro il suo scafo flagellato dalla schiuma. Non aveva idea di cosa stessero facendo le fregate francesi. Non sparavano, probabilmente si attrezzavano a superare il fortunale. La visibilità era minima, le si scorgeva appena. Vide solo con soddisfazione a Heidi Wall aggrappato al pennone di parrocchetto precipitare dall'alto su un'impavesata e spezzarsi la spina dorsale e cadere in mare con un urlo. Gli parve che avesse una gamba sanguinante. Sospettò che un morso ritto sulle griselle con una picca in mano c'entrasse per qualcosa, però lui aveva altro di cui occuparsi. Finalmente vide venire nella sua direzione incespicanti la schiava e Bamba, tutte e due con un'incerata sulle spalle. Porse loro un lembo di fune. Non c'è altro mezzo per scendere. Sbrigatevi, rematevi e portatevi lontani dallo scafo. Non so quanto la nave reggerà ancora. E voi, padrone? Spose Bamba. Quando sarà possibile cercherò di raggiungervi. Bamba allora caricò la schiava in spalla e con una mano sola e l'ausilio dei piedi scese lungo il cavo fino alla barcaccia, uno sforzo immane. Appena sul guscio che oscillava furiosamente, già mezzo pieno d'acqua, posò il suo fardello sulla panca e si mise ai remi. Ruggerio, con la sciabola, percosse il cavo. L'obbligo di usare la mano sinistra lo costrinse a colpi ripetuti. Il cavo cedette e la barca si allontanò. Sollevato il portoghese, tornò al centro della tomba. Gli uomini tutti erano ancora intenti sui pennoni del trinchetto a raccogliere le tele ed assicurarle con i loro gerli. Fatica improba, perché ogni colpo di vento strappava loro di mano la stoffa e la lacerava. Infine l'intera velatura fu allacciata, il Lerdi si abbandonò alla corrente. E proprio allora l'artiglieria delle fregate tornò a tuonare alla cieca. Si udirono schianti, grida, imprecazioni. Il timone non obbedisce più, signore, avvertì Levert. Devono averlo colpito. Altre due falle nella sentina, gridò disperato il carpentiere sporgendo la testa dal boccaporto centrale. Tra breve affondiamo. Decidete qualcosa, ammiraglio, implorò Macari, di solito molto più pagato. Sì, sarebbe detto che il cavaliere de Grammont si godesse il fortunale. Ritto sul quadrato di poppa aggrappato alla ringhiera, non si sottraeva agli scroscii, né a quelli della pioggia né a quelli del mare. Da tempo aveva perso il cappello e la lunga capigliatura nera gli batteva sulle spalle. Il suo viso pareva di pietra, non fosse stato per l'intensità dello sguardo. Possiamo salvarci solo abbordando, disse a Macari. Quindi impartì il più folle dei comandi, vista la situazione. La bandiera nera è stata strappata, voglio sul trinchetto un'altra Jolly Rouge, alta e ben visibile. Se vi fu perplessità, riguardò Macari, Levert e pochi altri. La ciurma reagì con entusiasmo, inalberò il vessillo di guerra e l'Erdi sprofondato fino a mezzo scafo ormai. Non era governato da nessuno, la poppa si stava inclinando, i cannoni, a parte i pochi che sparavano ancora, finivano in mare, ma tuttavia gli avventurieri indemoniati e furenti rimanevano temibili. Ogni fulmine pareva sovraeccitarli. Per tutto quel tempo i tamburini radunati a prora non avevano mai smesso di percuotere i loro strumenti, col pericolo di denunciare agli artiglieri nemici la posizione esatta del brigantino. E infine le nubi si diradarono, la pioggia cessò di cadere, i fulmini smisero di scoccare. Ciò accadde praticamente da un momento all'altro. Il Lerdi apparve un povero relitto spinto dal solo trinchetto, a fronte di fregate molto danneggiate, però in grado di tenere la posizione. Il Gloarduli, il più prossimo, incombeva maestoso, alto due volte il brigantino. Le bocche da fuoco si ritraevano per essere ricaricate. Squadre ordinate di serventi ai pezzi certo correvano nel suo ventre. Gruppi di fanti ben organizzati si acquattavano dietro l'impavesata. Sotto il sole enorme del tardo pomeriggio, ricomparso a sorpresa, i cinque velieri facevano capire dove stesse il potere dello Stato. Si scorgevano le piume dei tricorni calcati sulle parrucche degli ufficiali. «Ultima carica dalle batterie!» schiumò De Grammont. Ormai la lanciava gli ordini direttamente. Poi si abborda, preparate i grappini e granate, arawakos, lanciate le frecce, bucanieri, sparate e fate strage, tutti gli altri sul trinchetto pronti a saltare. Ammiraglio, in nome di Dio! Esclamò Macari angosciato. Non avete capito che stiamo affondando? Di quale Dio cianci, miserabile? Rispose De Grammont furente. Non siamo al suo servizio, non l'hai capito? Siamo al servizio della morte, unica padrona. Quelle frasi saltarono gli avventurieri pure esausti, cannonieri delle ardi ancora in grado di sparare. Risultarono 4. Gli altri erano caduti dai fianchi sfondati dal relitto, oppure avevano le polveri bagnate. Fu comunque una scarica indirizzata con cura. Palle a catena stritolarono la base dell'albero maestro e il groardoliello inclinarono. Magro successo, però significativo. La reazione fu micidiale. La fregata del re di Francia diede fondo alle sue riserve di polvere da sparo e di proiettili d'acciaio. Ricorse anche alla mitraglia, alle bombe, alle balestre. I bucanieri caddero l'uno sull'altro, indigeni e marinai arrossarono la laguna del loro sangue. I coccodrilli si staccarono dai loro cumuli e accorsero a bivaccare. Fu un fascio di legname che non si decise ad affondare una volta per tutte quello che si schiantò contro il Gloardulis. Sull'ardire sopravvissuto, chi era salito arriva sul trinchetto. Tra loro De Grammont forstennato, indomabile, l'antitesi dello zoppo che era stato fino ad un giorno prima, mostrava la sciabola, bestemmiava con ferocia, i suoi uomini ne erano galvanizzati. Invece Rogerio, che per il braccio mancante non poteva salire, si trovò con l'acqua alla cintola, spiò la laguna per vedere se fosse trovata la barcaccia sulle onde di nuovo calma e non poté scorgerla. Decise di approfittare del cozzo tra i resti degli ardiri affiancati del Groardulis per provare a saltare da un vascello all'altro. Anche per un monco come lui sarebbe stato difficile, ma non impossibile. Afferrò una grisella che penzolava nel vuoto. Vide venire verso di lui le verde, l'acqua fino al petto, tossiva per il fondo delle cannonate. «È tutta colpa tua, gesuita», disse il timoniere. «Sei stato tu a metterci in questo pasticcio, tuttavia non trascuro il fatto che hai un braccio solo. Aggrappati alle mie spalle e cercherò di trasportarti sulla fregata che stiamo abbordando.» «Ti ringrazio infinitamente», rispose Rogero. Si abbassò tanto che la schiuma gli imperlò la fronte. «Mettiti di schiena, ti salirò addosso. Sono pochi a pensare alle difficoltà di un mutilato.» Appena le vertigli girò le terga, Rogerio estrasse la sciabola dal fodero sotto l'acqua e gli fendette la nuca. Il colpo, inferto con la sinistra, non fu letale, dovette ripeterlo. Nel legno nemico raccolse la daga di un francese morto. L'assalto dei fratelli della costa al Gloardulis era in pieno corso. forza dei filibustieri era il loro impeto. Atterrarono sul ponte del Gradulis con l'agilità di tigri, subito inscenarono lo spettacolo consueto, ruggiti, bestemmie, esibizioni di ferocia. Scuotevano le lunghe capigliature, agitavano spade scuri, lanciarono manciate di piedi di corvo e le granate che erano riusciti a portare con sé ne esplose meno di un terzo senza fare gravi danni. Il fatto è che gli avventurieri questa volta non erano numerosi e il fortunale li aveva spossati. Avevano di fronte non marinai o galeotti, ma soldati veri e propri addestrati alla guerra. Resi convinti dal soldo regolare, dai pasti nutrienti, della fedeltà alla corona francese, della superiorità delle loro forze, erano i serbi, che noi sappiamo essere i soldati. Hubert Lansivier era sicuro un damerino, però col corpo a corpo aveva familiarità. La prima linea dei suoi fucilieri si mise in ginocchio, la seconda sparò, poi si accucciò a ricaricare mentre gli altri si levavano in piedi e puntavano i moschetti. Era la scienza bellica contro il disordine. I pirati furono falcidiati, De Grammont ebbe il mantello forato e perse il lobo di un orecchio. Si tampolò con la sinistra il sangue che gli scorreva sul collo e trasse con l'altra mano una pistola alla cintura, sparò a casaccio. Restava convinto che il duello risolutivo fosse comunque l'arma bianca e che quelle da sparo non contassero nulla. Ignorava che la guerra, nel ventennio trascorso da quando aveva lasciato l'Europa e raggiunto il nuovo mondo, si era evoluto in senso contrario. «Avanti, fratelli della costa!» urlò appertifiato il cavaliere. «Ammazza, ammazza la filibusta!» Compatti i fucilieri francesi erano ripiegati verso poppa. A un ordine di De Lambersier i loro ranghi si aprirono. Il castello ospitava due cannoncini mobili che proprio in quel momento ingurgitavano secchi di mitraglia, schegge di metallo, frammenti di vetro. Rogerio, che aveva partecipato alla prima carica, si fece indietro anche per un improvviso dolore al piede. Le stelle a quattro punti utili durante l'attacco si stavano ritorcendo contro i filibustieri, pochi di loro, a differenza dei francesi che alzavano stivali dalla suola di cuoio. I più erano a piedi nudi o indossavano i calzari in pelle di cinghiali confezionati dai bucanieri, e Ruggero era tra gli ultimi. «Spazzatemi il ponte!» ordinò De Lambersier agli artiglieri addetti ai cannoni mobili. «Fate pulizia della canaglia!» I soldati accostarono le fiaccole ai foconi, il fragore fu moderato ma letale. Proiettili d'ogni sorta piovvero sugli assalitori, corpi trafitti volarono lontano. Il fumo grigio che si era sprigionato concesse ai filibustieri un attimo di tregua. Questi ripiegarono verso prua e si nascosero sotto il bonpresso. Rogerio guardò il mare oltre il mascone di babordo e si accorse che il Gradulis, apparentemente immobile, in realtà navigava. Aveva quasi raggiunto senza intenzione la barcaccia di cui Bamba muoveva i remi mentre la schiava sedeva presso il timone, la schiena dritta e la posa altera. Erano circondati dai frammenti delle arti. In disfacimento navigavano tra barili galleggianti, rotoli di sartiame, oggetti di ogni tipo. Tre cavalli battevano le zampe e cercavano di nuotare lanciando nitriti disperati. Gli uomini in vista erano quasi tutti a testa in giù, il dorso sporgente e la faccia nell'acqua, le membra abbandonate. Solo il sale della laguna teneva a galla. Torme di coccodrilli scioglievano i coacervi formati sulle spiagge e scivolavano nel lago, avidi di carne fresche. Ogni onda era orlata di sangue. I rettili nuotavano con la bocca già spalancata. Rogerio pensò che era venuto il suo momento, ora o mai più. E allora si inerpicò con la sinistra sul bonpresso e vi restò sdraiato. Levò la mano che gli rimaneva verso Bamba finché il negro non sembrò vederlo e gli gridò: «Accosta più che puoi, salto a bordo!» Temeva che il relitto delle ardiche si stava inabissando e inghiottisse la scialuppa. Rogerio aveva completamente dimenticato il contesto, perso nel sogno della donna che riteneva sua. Le altre fregate, tutte in ottime condizioni, stavano già affiancando il Gloagulis e i loro soldati si preparavano ad abbordare. I cannoni immobili erano nuovamente cariche, cercavano la mira. I filibustieri, minacciati da nuove scariche di mitraglia, non osavano uscire dalla loro tana prodiera. Lo stesso De Grammont non parlava, stava in piedi, la sciabola in mano, forse aspettava nuove nuvole di caligine per ordinare un assalto. Ma la scarica venne e fu micidiale. Decimò i pirati, ne lasciò in vita un pugno. Tra i masconi scorse il sangue misto a viscere, a lembi di cervelle, ad arti recisi. La veratura stessa fu schizzata di rosso, le grida di sfida furono sostituite dai lamenti e dalle urla di dolore. Malgrado la tragedia, De Grammont, rimasto incolume, si accorse di ciò che Rogerio, aggrappato al Bonpresto, stava per fare. La barcaccia galleggiava a poca distanza, in un attimo sarebbe stata sotto la fregata. «Ah no, miserabile, dannato assassino a pagamento!» urlò il cavaliere, la bava che gli colava sulla barba. «Quella donna non sarà mia, ma non sarà nemmeno tua!» Con un colpo di sciabola tagliò a Rogerio l'estremità del tallone. Il portoghese lanciò un urlo e si fece scivolare sul ponte. La sua sinistra raccolse la daga di un canuto, si raddrizzò zoppicante, il viso alterato dal furore. «Povero demonietto! Avrò io le tue budella, sarò io ad avere le tue prete, spretato, sicario di secondo ordine!» La scena che seguì fu surreale. Mentre i filibustieri sopravvissuti tentavano di raggrupparsi per un'estrema difesa, mentre de Lambersier faceva ricaricare a mitraglia i cannoni mobili, mentre i soldati delle altre fregate cercavano il modo di transitare sul Gloagulis, De Grammont e Rogerio, entrambi claudicanti, si impegnarono in un duello furioso ai limiti della demenza. Le loro armi corte cozzarono l'una contro l'altra, produssero scintille, non veniva seguita alcuna regola della scherma. Ai colpi selvaggi si accompagnavano calci e pugni, più un vomito di insulti. «Maledetta canaglia!» urlava il cavaliere. «Assassino vigliacco, quanto ti hanno pagato per tradirmi?» Rogerio si sgolò. «Non abbastanza! Reietto dei miei stivali, fallito capitano di fantasmi, ma sto per tagliarti la gola, forse mi varrà un premio supplementare. Quella donna la toccherai cadavere e tu non la toccherai affatto!» I pirati sbalorditi si fermarono a osservare due forstennati che si scambiavano fendenti furibondi, si aggrappavano al Bonpresto. Per tenersi in piedi scivolavano sul sangue sparso al suolo, tossivano, sputacchiavano. Si stavano coprendo di tagli superficiali. Rogerio era svantaggiato perché combatteva con la sola mano sinistra, l'altra faticava più di lui a tenersi ritto. Erano due maschere di odio e di dolore. Colpito dallo spettacolo, De Lambersier fermò con un gesto artiglieri e fucilieri. Appariva spaventito. «Mai visto nulla di simile, certo non lo vedrò mai più, sono pazzi scatenati. Lasciatemi fare, vediamo come va a finire.» Rogerio perdeva sangue da una ferita al petto e da un'altra dall'addome. Riuscì a lanciare uno sguardo sulla barcaccia, era ancora prossima alla prua della fregata, ma si stava allontanando. «Portatela alla corrente, aspettami, bamba!» gridò con la voce che gli restava. De Grammont, che aveva il viso coperto di sangue per un taglio alla fronte, fece un sogghigno. «Cosa pretendi che aspetti? La tua salma?» Le due lame cozzarono nuovamente. La sera calava intanto rapida. Rogerio allora vide una pistola carica nella bandoliera di un filibustiere morente e gettò la daga. La strappò, ne sollevò il cane, puntò la canna verso il cavaliere e questi abbassò la sciabola. «Vigliacco, infame, traditore, fino all'ultimo, non è vero, gesuita?» bisbigliò. «E ammazzami pure, confidente!» Rogerio non se lo fece ripetere, premette il grilletto. Il cane percorse il fornelletto con la pietra focaia e produsse una scintilla, la polvere esplose. Il cavaliere Michel De Grammont, conquistatore di Veracruz e di Campeche, penultimo, tra i grandi conduttori della filibusta, restava sempre in vita Lorenzillo, cercò inutilmente di compiere e di comprimere il fiotto vermiglio che gli scaturiva dallo sterno, cadde sulle ginocchia, poi sul dorso. Chi gli era vicino lo udì sussurrare in un rantolo: comunque non sarà tuo. Ruggero De Campos vacillò davanti a ciò che aveva fatto, vide gli avventurieri, eccetto quelli che attorniavano alla salma sanguinante di Michel de Gramont, alzare le mani e arrendersi. Se fossero stati prigionieri degli spagnoli, la loro fine sarebbe stata certa. Non era così con i francesi, che avevano servito per decenni. Alcuni confidavano evidentemente in una maggiore clemenza. Ruggero gettò lontano la pistola, poi si trascinò fino al mascone di tribordo. Col solo braccio che poteva usare, aggrappato al sartiame, riuscì a scalarne l'orlo e a mettersi in piedi. La barcaccia, spinta da Bamba a furia di remi, era ancora vicina, galleggiava tra macchie oleose, mulinelli e rottami d'ogni sorta. Lo scheletro delle ardie era ormai inabissato e sprigionava le merci che gli erano rimaste a casse e barili. Tanti, tra cavalli e porci annegati, fornivano ai coccodrilli il pasto migliore della loro vita animale. Ruggero stava per saltare quando fu interpellato da Hubert Lambercier. Questi, prima di due suoi uomini, artiglieri inclusi: «Non sparate, abbiamo già vinto!» L'ordine si è comunicato al resto della flotta, disse poi a Ruggero: «Salta pure, piccolo uomo, non te lo impedirò. Mi hai fatto un piacere e hai ucciso un uomo temibile e feroce, però un uomo grande, e ora vai. Chissà che l'amore non ti riscatti dalla tua mediocrità». Ruggero rimase senza fiato, non seppe cosa rispondere. «So via», lo esortò De Lambercier severo. «Raggiungi la tua fanciulla, non ti torcerò un capello. Magari in Francia avevano premeditato che fosse un codardo, subdolo e assassino a mettere termine alla storia gloriosa della filibusta della tortuga. Sbrigati a tuffarti, perché i miei fucilieri prudono le dita e tra un istante faranno fuoco». Ruggero, gesuita, portoghese, rinnegato, cadde in acqua e ingurgitò di tutto: olio, liquami, persino vino. E riemerse boccheggiante. A poca distanza dalla barcaccia, Bamba, lo schiavo negro, aveva lasciato i remi e gli tendeva la mano. Il solo braccio ovale del gesuita emerse e la strinse. Non fu un'operazione facile, richiese una decina di minuti. Intanto la notte colava, calava rapida, e nel cielo si accendevano le stelle. Più la luna, tonda e brillante, le fregate francesi si erano riunite in una sola squadra, occupavano una baia interna alla Isla Mujeres, prive di nemici, gonfie di filibustieri che si erano arresi, calavano le ancore. Ma ciò non era noto a Ruggero, che diguazzava come gli era possibile, afferrò la spona della grande scialuppo e anzitutto trascinò il dorso, poi il resto del corpo. «C'è una vela, sì che c'è, latina!» bofonchiò, e intanto spendeva acqua salata curvo sulle ferite che gli facevano sanguinare il torace. «Approfittiamo della notte e del vento, usciamo da questa laguna dei dannati!» Bamba lo raccolse e lo adagiò su un sedile. Alzò la vela, riprese i remi e vogò con energia. Nessuno dalle fregate cercò di fermarlo. Filò verso la costa con la luna che, spuntata enorme e ancora chiara, gli permetteva di scorgere nella sabbia. Lasciò lo specchio di detriti cadaveri. Fra impatti ripetuti urtò le scaglie dirette immobili come tronchi. Infine la meta fu in vista. Ruggero cominciava a sentirsi un po' meglio, passò da un branco all'altro, diretto verso la schiava. Alzare ogni volta le gambe gli causava fitte terribili. Allora la donna, la schiava, finalmente parlò, e parlò in portoghese, e si rivolse a Bamba: «Capisci la mia lingua?» Travolto dallo stupore, il negro balbettò con accento brasiliano: ah, pochito, meglio dello spagnolo, sono stato servo a Rio de Janeiro, dunque voi parlate. Ah, sì, ma io parlo solo con chi ne è degno, conosco il portoghese, sono nata in Madagascar. La donna di Torro Gego che arrancava verso di lei: Bamba, ti chiami Bamba, non è vero? Sì, signora, io mi chiamo Reina. Liberami da quel verme, dallo impasto ai coccodrilli. Rogerio non credeva a ciò che udiva, gli sembrava di vivere un incubo, smise di strisciare, cercò di raddrizzarsi. Quando Bamba estrasse il remo dallo scalmo, non capì cosa stesse facendo. Il colpo violento sul petto rigato dai tagli giunse a sorpresa. Provò ad aggrapparsi qualcosa col braccio valido, ma sulla barcaccia non c'erano manovre. Si afferrò ad un lembo di vela che non lo sorresse e finì in acqua. In pochi istanti Rogerio De Campos si trovò circondato dai coccodrilli. Provò a gridare, gridò molto più forte. Quando le fauci spalancate si chiusero sulle sue carni. Bamba aiutò Reina a mettere piede sulla spiaggia con tutta la galanteria che gli spagnoli dopo i portoghesi gli avevano insegnato. Lei si sbarazzò subito degli oggetti futili come l'ombrellino, la parrucca, il busto e l'intelaiatura che reggeva la gonna. Tentò di scrutare la foresta, la luce però era insufficiente. Non c'è nessuno in questi mari che possa accogliere gente come noi. Come noi in che senso? Con la pelle nera. E Bamba dovette riflettere. Gli indigeni di norma non ci sono ostili, poi esistono città fondate dagli ex schiavi fuggiti dai galeoni e dalle navi negriere. Esistono diverse, soprattutto in Messico. Lontane, lontanissime. Ebbene, non è mica il tempo che ci manca, voglio andare laggiù. E Reina si raddrizzò con alterigia, si ravviò, i capelli scorse e il seno era di una bellezza che dava le vertigini e ne era consapevole. A patto che sia gente migliore di quella con cui abbiamo convissuto per tanti mesi. Bamba fece un mezzo sorriso. Oh, ma questo non è difficile. È che rispetti la libertà. È che non pensi che l'ideale supremo sia essere belve. Ciò non potrei garantirlo perché non conosco le società create dagli schiavi evasi. I muscoli di Bamba erano gonfiati dallo sforzo di trascinare la prora della barcaccia sulla terraferma. Ansimava. Aveva calato la vela, rientrato i remi e gettate le cose inutili, tuttavia si trattava di una fatica improba per un uomo solo. E mia signora, esiste sempre il rischio che sulle comunità liberate calino gli spagnoli per impadronirsene o i pirati per depredare la loro vita insicura. Ma non chiamarmi mia signora, chiamami col mio nome, Reina, lo rimproverò la donna in tono severo. E aggiunse: Bamba, queste terre sono sterminate, fanno gola a predoni di tutto il mondo, gli schiavi fuggiti al loro destino potrebbero fondarvi in modi di vivere differenti, più umani. Bamba guardò la donna con stupore. Mia signora, balbettò, anzi Reina, usi parole difficili, molti non le capiste, ma siete andata a scuola. Eh sì, in un passato lontano i portoghesi in Madagascar crearono scuole per indigeni a cui ammisero selvaggi addomesticati. Reina alzò le spalle. Ma non voglio pensarci, come si chiamava quel portoghese che ha gettato i coccodrilli, quello senza bracci? Rogerio De Campos non era veramente cattivo, non era nulla, solo ambiguo. Beh, a me piaceva più il cavaliere zoppo. Non mi assillava, era rispettoso e gentile. Reina vide nel buio della selva brillare alcuni fuochi. Andiamo là, disse, con precauzione. A molte miglia di distanza Lorenzillo scendeva dalla coffa di Maestra investito dal vento. Era molto raro che un capitano si recasse tanto a riva. Il Neptune veleggiava sereno tra onde calme, spinto da un refolo di vento. La mattinata era limpida e il calore sarebbe esploso più tardi. La campanella aveva chiamato l'equipaggio al ranch delle 10. Ma dove diavolo siamo? Chiese Lorenzio dopo aver saltato le ultime griselle ed essere atterrato sulla tolda. Intorno non vedo che onde. penso che ci troviamo nei pressi delle isole Sopravvento Settentrionale, rispose Filippo Calloada alla chiesuola. Gli strumenti che abbiamo non permettono maggiore precisione. Corpo di un satanazzo, dobbiamo sempre navigare alla cieca, piccolo consiglio. François Le Bon, che mangiava la sua razione seduto sull'orlo del cassero, tolse la forchetta di bocca. Ci sono dei gabbiani, capitano, e indicò il cielo. Quelle bestiacce non si allontanano mai troppo dalla terraferma. Eppure io non ho visto terre di sorte, né isole né spiagge. Allora vuol dire che seguono delle navi. Le Bon posò la scodella con una smorfia di disgusto e cercò la pipa. No, la nostra, ci sono troppi gabbiani perché possano nutrirsi dei soli rifiuti che noi gettiamo in acqua. Navi, quali navi? La risposta giunse poco dopo da un gabbiere, aggrappato al pennone del controvelace di maestra. Venire in vista a prua, capitano, nord-nord-est direi, anzi sono due, tre, quattro, un'intera flotta. Riesci a vedere quelle bandiere abbattono? Mi pare quella della Spagna. Calloa corse all'impavesata e puntò il cannocchiale. Ah, deve essere la flotta dell'ammiraglio André de Ochoa e Zárate. Batte queste acque, galleoni da guerra con centinaia di cannoni a bordo, guardate voi stesso! E passò lo strumento a Lorenzio. Che faccio, capitano? Tiro di bordo! L'altro guardò appena nell'oculare e fissò stupito il primo ufficiale. Ma sei impazzito! Subito dopo prese a sbraitare tutti gli uomini in coperte, i gabbieri a riva, i cannonieri ai pezzi, i bucanieri a prua, si combatte, boia di un diavolo, si torna a combattere sul serio. L'equipaggio fu galvanizzato, si scalarono le griselle a branchi per spiegare le vele, dal vento del brigantino salì il borbottio delle palle dei barilotti di polvere fatti rotolare lungo i corridoi, Le Bon intascò la pipa e cercò una sciabola d'abbordaggio ai fucilieri. Sistemarono i treppiedi contro i masconi. Dove sono i tamburi? Urlò Lorenzio. Dov'è la bandiera? La Jolie Rouge sventolò sull'albero maestra, nera e terrificante. Spinto dalla velatura gonfia di vento, incitato dalla cadenza rapida delle percussioni, il Neptune inclinato e cigolante corse ondeggiante all'attacco verso un nemico ancora lontano. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo prolungato di un'ora la diretta d'azione perché c'era da finire il libro Tortuga di Valerio Evangelisti, quindi dalla prossima volta nuovo libro. Se qualcuno ce lo consiglia, entro mercoledì attraverso la mail che ricordo radiazione@artistici.org lo prenderemo in considerazione, altrimenti noi abbiamo già scelto un libro che leggeremo da lunedì prossimo, non lo diciamo ora per scaramanzia. Per scaramanzia, ma soprattutto anche sui libri che abbiamo già letto in questa stagione di radiazione. Se volete dirci qualche cosa, visto che ci sono i podcast registrati che vi potete scaricare, riascoltare e farne ciò che volete, ditecelo. Quindi ditecelo attraverso la mail, lo ricordo, la mail dove potete inviare mail, comunicati, giornali e materiale da pubblicare sul sito di radiazione, da scaricare gratuitamente, molto cioè questo è quello che si auspica, perché diciamolo francamente, cioè, se si è messa una sezione download sul sito di radiazione perché si vuole che certo materiale, specialmente materiale anarchico, circoli liberamente e non con un prezzo, un costo, a meno che non sia un benefit, che okay, va bene. Allora, per la radio, per il sito invece dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente è radiazione.org, e dove potete ascoltare ogni lunedì e venerdì dalle 17 in poi la diretta d'azione, riascoltare i podcast delle vecchie dirette d'azione, come ho detto scaricare un po' di opuscoli, cd, manifesti e giornali che man mano ci arrivano su radiazione. Ultima aggiunta, si inizia precisamente e si finisce quando ci pare, ecco, e chi si offende è un fedente.